Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buona domenica, ma soprattutto buon anno a tutti. Qui per raccontarvi, per ricominciare, per riannodare i fili con il campionato e per raccontarvi la prima giornata di questo 2012 con Milan e Juventus che stanno provando a rispondere all'Inter di ieri sera dilagante e all'Udinese che oggi all'ora di pranzo ha battuto 4-1 il Cesena, ma soffrendo un pochino prima di arrotondare nel finale, doppiette di Natale, tanto per cambiare. Quanto agli altri risultati, quanto a ciò che sta succedendo sui campi, chiedo subito, così lo presento, una mano a Giovanni Capuano, nostro inviato al telefono di oggi. Ciao Giovanni! Eccoti Carlo, buon pomeriggio. Allora, del Milan hai detto 1-0 avanti gol di Ibrahimovic su rigore a metà del primo tempo, Juve avanti 1-0 con gol di Matri, 27esimo del primo tempo, di testa facile, e poi c'è il Bologna in vantaggio 1-0 sul Catania, ha segnato Cherubin dopo 5 minuti della ripresa, vince largo il Cagliari contro il Genoa 3-0 nel primo tempo, al 12esimo l'Arrivei su calcio di rigore e nella ripresa prima i Barbo in contropiede e poi una sventurata autorete di Granquist su traversone senza pretese di Agostini, dunque 3-0 per la prima sulla panchina del Genoa di Marino, e poi sta vincendo largo 3-0 la Fiorentina Novara con doppietta di Jovetic che oggi debuttava da centravanti unico, ha segnato su rigore al 20esimo del primo tempo e poi con una bellissima mezza rovesciata al quarto della ripresa, in mezzo il 2-0 di Montolivo con un pallonetto nel finale del primo tempo, vince 1-0 anche la Roma contro il Chievo, ha segnato, e questa è una notizia, Totti, primo gol per lui in questo campionato su calcio di rigore al 34esimo del primo tempo, si è anche preso poi il cartellino giallo per aver esultato mostrando la maglia, scusate il ritardo. Roma che in questo momento ha un altro calcio di rigore, è stata una domenica difficile quella del direttore di gara dell'Olimpico Russo che ha dato il rigore sbagliato, il primo, quello di sì. Totti, poi ne ha negati due clamorosi a Pjanic, a Bojan per due falli di Cesar, e adesso ha dato ancora calcio di rigore, siamo al 32esimo, al 33esimo del secondo tempo, sarà ancora Totti ad andare sul dischetto del calcio di rigore, il primo l'ha tirato forte sotto la traversa e ha segnato, adesso ci riprova, parte, gol del 2-0, dunque Roma 2, Chievo 0, 33esimo, questa volta ci ha provato con un rasoterra nemmeno troppo angolato, gli è andata bene, 33esimo, Roma 2, Chievo 0. Perfetto, grazie Giovanni Capuano, vi abbiamo dato la doppietta in diretta, la doppietta di Totti che aveva peraltro dichiarato, ne faccio due, e così è stato, entrambi su calcio di rigore. Una Roma che, poi parleremo di promossi e bocciati di questa prima giornata del 2012, ad esempio la Roma mi è piaciuta moltissimo nel primo tempo, anche se al solito vizio forse strutturale di fare una fatica dannata a chiudere le partite, a trovare il gol. Non mi sono piaciute, non mi stanno piacendo un granché il Milan, comunque su un campo molto difficile come quello di Bergamo, però è squadra di grande esperienza e sa come si vincono queste partite. Non mi sta piacendo un granché la Juventus a Lecce, Juventus che oggi ha proposto dal primo minuto Quagliarella centravanti, prima punta, esperimento su cui ho qualche dubbio, è durato 22 minuti, poi Quagliarella ha preso un colpo, ha lasciato il posto a Matri che, guarda caso, ha segnato 5 minuti dopo. Ma Giovanni Capuano sta collegato con le partite, pronto a intervenire nel caso in cui succeda qualcosa, cioè qualche variazione ai parziali che vi abbiamo detto. Intanto io saluto Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo. Ciao Carlo, buongiorno, buon anno a tutti. Perché c'è anche il 2012 del rugby che ha proposto un sorriso e una lacrima, mi pare ieri, per le nostre. Sì, un sorriso e una lacrima per un rugby che di fatto non si è fermato, e il sorriso viene da Viadana, dove gli Aironi hanno battuto 20-6 gli irlandesi del Connacht. È una bella vittoria anche perché gli Aironi avevano cominciato bene questo periodo festivo all'antivigilia di Natale battendo il Benetton, poi alla vigilia di Capodanno avevano perso molto male nel match di ritorno, onore al Benetton Treviso che ci teneva a riconfermarsi prima forza del movimento italiano, e quindi si poteva pensare a un abbattimento di tipo psicologico per gli Eroni, che invece si sono subito ripresi, vittoria per 20-6 contro quella che è la meno titolata delle formazioni irlandesi, ma che da quest'anno, proprio per i risultati ottenuti l'anno scorso in quella che si chiamava Celtic League, possono partecipare anche alla Heineken Cup, che è, lo ricordiamo, l'equivalente della Champions League del calcio. Il Benetton giocava contro una delle squadre più forti d'Europa, i detentori del titolo, il Munster, in casa loro. Hanno giocato a Cork e hanno perso 29-11 dopo essere stati a lungo in partita. Il punteggio era 17-11 quando mancavano una ventina di minuti alla fine. Il Munster poi ha accelerato, Benetton che è andato progressivamente in difficoltà, e quindi Munster che è riuscito anche a segnare la quarta meta, quella che dà il punto di bonus in classifica. A voler completare il fine settimana, per una volta ricordiamo anche un risultato del campionato di eccellenza, campionato al quale il nuovo CT Jacques Brunel ha detto giustamente di voler guardare con attenzione per scovare giovani interessanti da far crescere. Oggi c'era il confronto tra la prima e la seconda in classifica. I Cavalieri Prato, primi in classifica, hanno ospitato il Calvisano ed è finita in parità 20-20, per cui Cavalieri Prato che rimangono in testa, Calvisano sempre secondo, raggiunto dal Rovigo. Perfetto, grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a Giacomo Bagnasco. Nessun gol nel periodo non collegato, Giovanni Capuano, anche se una palla buona per Ibrahimovic c'è stata, non mi sembra il miglior Ibra stagionale, anche se ha raggiunto a quota 12 German Dennis oggi suo dirimpettaio, che peraltro ha colpito un palo al 13° della ripresa, pareggiando anche questo tipo di conto dopo che Pato ne aveva colpito uno di testa qualche minuto prima. Non un grande Ibra, però, si diceva. No, direi meglio Pato tra i due, se proprio vogliamo fare una classifica. Ibra che nell'occasione che hai descritto è arrivato a tu per tu con consigli e poi si è fatto ribattere in scivolata da Manfredini, ma ha forse esitato qualche istante di troppo prima di concludere, perché era davvero a non più di 5-6 metri dalla porta e con i difensori alle spalle, e soprattutto a inizio ripresa ha tenuto palla su un contropiede 3 contro 2 del Milan con tutti i compagni liberi al limite dell'area di rigore. Si è intestardito, ha provato a dribblare, entrare in area di rigore, un'azione che ha fatto molto arrabbiare Allegri, perché davvero il Milan aveva l'occasione per chiuderla questa partita, che rimane complicata anche se con il passare dei minuti si è un po' affievolita la spinta dell'Atalanta, che è stata fortissima soprattutto a cavallo del quarto d'ora della ripresa, in cui l'Atalanta avrebbe anche meritato il gol del pareggio. E nel Milan il migliore in quel frangente è stato, al di là del palo di Dennis, è sicuramente Abbiati. Sì. Però questa se arrivasse è una vittoria pesantissima per il Milan, considerato anche come Allegri è dovuto andare a Bergamo sul campo di una squadra che fin qui in casa non ha mai perso in questo campionato, l'ultima sconfitta il 16 aprile scorso. Direi che basta questo per raccontare quanto possa essere difficile vincere qui. Nel confronto a distanza, secondo te oggi meglio il Milan o la Juventus? Al netto del valore degli avversari, che è molto diverso, Lecce ultimo in classifica e l'Atalanta, che comunque resta una squadra che sta facendo un signor campionato. Direi comunque meglio il Milan, perché la Juventus ha rischiato tanto contro il Lecce, ha rischiato tanto, la partita è ancora aperta, il Milan comunque su un campo difficile la sta vincendo, avrebbe anche potuto chiuderla, che dovesse soffrire si sapeva. Io dico anche che entrambe, e ce l'hanno insegnato anche negli anni scorsi, comunque rientrano dalla pausa natalizia con le gambe abbastanza imballate, perché poi di solito si tende a fare il pieno per arrivare fino al finale di stagione, e quindi devo dire che tra le due era abbastanza prevedibile che entrambe potessero soffrire contro squadre che corrono, però comunque la sicurezza con cui il Milan fin qui sta portando a casa questa partita, rischiando anche di chiuderla in più occasioni, mi fa preferire sicuramente la prestazione del Milan. Poi mi piacerebbe giocare con voi a questo giochino un po' stucchevole, se volete, promossi e bocciati di questa prima di campionato. Tra i promossi, cioè, attenzione, perché succede qualcosa a Bergamo? Ha raddoppiato il Milan Boateng, un gol che è quasi tutto di Ibra, avevamo appena finito di parlarne male. Ibrahimovic ha messo giù il pallone di petto, è andato fino la linea di fondo superando Manfredini, palla morbida, raso terra dentro al limite dell'area piccola, è arrivato Boateng di piatto, palla sotto la traversa e poi in rete, 37° del secondo tempo, 2-0 per il Milan, partita virtualmente in ghiaccio. Partita in ghiaccio, e sarebbe un risultato davvero molto importante alla vigilia di un derby al quale l'Inter si presenta, e qui torno al discorso di prima, mi piacerebbe giocare con voi a questo giochino dei promossi e bocciati di questa prima di campionato, che è particolarmente indicativa per i motivi che Giovanni Capuano spiegava. Ebbene, l'Inter è certamente tra i promossi, la Lazio certamente tra i bocciati di questa giornata di ripresa. È rivedibile la Juventus, il Milan sta vincendo come sanno fare le grandi squadre. Tra i promossi anche l'Udinese, che oggi ha battuto 4-1 il Cesena, il gol di Di Natale dopo soltanto un minuto e poi un po' di sofferenza perché è stato l'1-1 di Eder al 39esimo primo tempo, nella ripresa Nola Samoa, al 30esimo Basta e al 37esimo Totò Di Natale. E noi sentiamo cosa ha detto Guidolin dopo questo successo che ha portato l'Udinese al primo posto della classifica per insomma diciamo qualche 30 minuti, dice Giorgio De Luca della redazione. Sì, facciamo 30 minuti. Guidolin. Senza pensare alle favole, senza negare niente a nessuno, cioè come dire, senza bleffare con nessuno, noi anche tra di noi sappiamo che siamo un po' sovradimensionati dal punto di vista della classifica, non che non la meritiamo, ma che squadre come l'Inter sono già attaccate a noi o molto vicine a noi e che potranno rientrare perché hanno la capacità di vincere 7-8 partite di fila, infatti l'Inter lo sta facendo, così poi Napoli, Roma e altre squadre che adesso non vorrei dimenticare, ma ce ne sono alcune altre. Quindi noi stiamo pensando di partita in partita, ci godiamo questa bellissima classifica e abbiamo da un po' di tempo stiamo un po' cambiando, stiamo dicendo che vorremmo che questo momento durasse più a lungo. E quindi è questa la nostra, e questo è il nostro punto di osservazione. Questo era Guidolin, 800 24 00 24 per intervenire da ora fino, anzi dalle 16.30, da quando abbiamo cominciato, naturalmente microfoni sempre aperti per noi fino alle 19, messaggi sms 349 238 6666. Parleremo più tardi anche dell'Inter che ieri ha danzato sulle macerie del Parma. Sappiamo che Colomba è in bilico, sappiamo che Ghirardi, presidente del Parma, è molto arrabbiato, però ieri sera si è vista un Inter certamente in crescita, un Inter che sta pian piano ritrovando le sue, quelle che sono state a lungo le sue certezze, cioè i gol di Milito, i cross di Maicon. Un Inter che va verso una partita che sarà decisiva per gli equilibri del suo campionato, per capire cosa potrà fare ancora, e cioè il derby del prossimo weekend. 800 24 00 24, la Juventus resta in attacco, siamo al 37esimo sul campo di Lecce su cui piova dirotto in questo momento, risultato ancora in bilico con i bianconeri avanti 1-0. Sempre Milan in vantaggio 2-0 a Bergamo, la Juventus 1-0 a Lecce, dunque dovrebbe proseguire la marcia di testa a braccetto di queste due squadre. Guardavo prima ad impreziosire la vittoria del Milan, stavo notando appunto il fatto che, e ricordando il fatto che comunque è un Milan con grandi assenze, oggi gioca Mexes al centro della difesa, non c'è Nesta, ha avuto una difesa abbastanza inventata, i centrocampisti sono contati. Pato ha giocato, Benino ha preso un palo, però è inutile nascondere che sullo sfondo di questa giornata di campionato, forse addirittura davanti a questa giornata di campionato, c'è il discorso mercato, perché queste non sono le squadre che chiuderanno la stagione. È un piacere parlarne con Carlo Pallavicino, procuratore molto noto e nostro amico. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno, buona domenica. Buona domenica. Posso chiederti cosa ci fai a Londra? Perché so che sei lì. Madonna, scusa, abbiamo appena visto il Lecce sfiorare il pareggio. Sfiorare il pareggio, sì. No, praticamente no, ero in vacanza. E non c'erano altri motivi se non sono rientrato, peraltro ora sono a casa a guardare le partite, sto guardando proprio partire il Lecce che ha sfiorato il pareggio in questi istanti. Cioè, eri in vacanza, non come Galliani a Rio? No, non come Galliani a Rio, non in piacevole compagnia, ma assolutamente in compagnia familiare, che è altrettanto piacevole. Senti Carlo, ti faccio subito una domanda difficile. Oggi ha segnato Montolivo, è l'ultimo gol o uno degli ultimi gol che fa con la oggi in giallo, però con la maglia della Fiorentina? Ma senti, io sono anche fiorentino, quindi è chiaro che mai dire mai fino all'ultimo, questo è un qualcosa che io me lo riservo anche proprio dal punto di vista affettivo. Sono molto contento che oggi abbia segnato, ci sono ancora alcuni mesi davanti, chi lo sa. Io oggi ho visto molto della partita di Novara e devo dire che questa Fiorentina era Fiorentina finalmente squadra, finalmente con un'idea proprio tattica interessante, fra l'altro molto rischiosa, perché ha perso un attaccante così importante come Gilardino e si è affidata al duo slavo di Jovetic e Ljajic, che devo dire oggi hanno duettato molto molto bene, e devo dire che Montolivo oggi è una persona anche un po' defilata, riuscita a fare una grande partita. Sicuramente c'è bisogno di grande entusiasmo a Firenze, c'è bisogno anche di tante cose, e chi lo sa, speriamo che qualcosa poi possa prima alla fine accadere. Quanto può valere oggi Jovetic? 9 gol per lui in questa stagione, il trascinatore di una Fiorentina in difficoltà in tutta la prima parte della stagione. Ricordiamo, reduce un infortunio molto grave, mi sembra un giocatore pronto per un salto importante. Ah, bravo, infatti hai proprio sottolineato la cosa secondo me più incredibile, che quest'anno, pur non essendo magari al 100%, è riuscito però a tirare fuori un carattere, una grinta, una determinazione e una freddezza sotto porta straordinaria, perché effettivamente insomma questo significa tanto, per un ragazzo rientrato da un infortunio di un anno intero essere così prolifico e così determinante, secondo me tu mostra che oggi come oggi Jovetic è forse in assoluto il calciatore, il campione italiano più interessante e forse più appetibile dai grandissimi club europei. Però diciamo, se arriva un inglese 25? Ma secondo me anche qualcosa in più. Anche qualcosa in più. Comunque devo dire che questo è un campionato per certi versi molto divertente, perché lo stesso Lecce, stavo guardando oggi, ma non solo oggi, ha dei giocatori da Muriel al Quadrado. Tante squadre anche di seconda fascia mettono in campo giocatori interessanti, e poi anche finalmente qualche giocatore italiano tipo Destro, che sì, mi sembra sia un altro elogio molto importante da mandare al settore giovanile dell'Inter, che in questi anni ha lavorato molto bene, così come tirando fuori bene o male Faraoni, che pure proviene dalla Lazio. E mi sembra che sia un settore che sta portando qualcosa di importante anche a livello italiano. Sì, sì. È un campionato interessante questo, al di là del fatto che poi alla fine se lo giocheranno le solite squadre. Le solite squadre, però c'è un'incertezza cui francamente non eravamo più molto abituati. Io chiedo a Giovanni Capuano, che sta guardando le partite insieme a noi, perché siamo qua in tre, e io, Carlo Pallavicino e Giovanni Capuano stiamo guardando tutte le partite, stiamo chiacchierando di mercato, non so se Giovanni vuole togliersi qualche curiosità. No, la curiosità è legata in realtà al nome di Tevez, perché lo scenario che viene dipinto oggi è quello in realtà di un'offerta del Paris Saint-Germain che esiste soltanto sulla carta e che quindi lascia lo spazio al derby tra Inter e Milan. La curiosità però è legata ai numeri, perché è evidente che se l'Inter è andata con questa decisione su Tevez è perché sa che qualcuno è destinato a partire, e anche a breve, e io vorrei capire a quel punto da Pallavicino, che conosce molto bene queste realtà, se quello che scrivono in Spagna ad esempio sull'interessamento del Barcellona per Forlan ha un fondamento di vero, o se l'altra voce che è girata in questi giorni a Milano, e cioè che Milito in realtà potrebbe essere l'attaccante che può far comodo alla Fiorentina in questo finale di stagione, possa in qualche modo trovare riscontro, anche se visto il Milito di ieri sera io non so quanta voglia abbia lui stesso di andare via e Morata di privarsene. Ma no, Milito poi tra l'altro con l'ingaggio che ha penso non possa sicuramente andare a una squadra come la Fiorentina. Io su Forlan sinceramente non ho idee, però credo che se c'è una squadra che ha una prospettiva seria di poter prendere Tevez sia il Milan, anche perché sennò Gagliani non si esponeva così tanto. Io continuo a pensare che al Paris Saint-Germain, il quale peraltro c'è il portiere che e Sirigu, credo serva più un centrocampista che una mezza punta, tant'è che aveva pensato anche proprio di prendere Beckham e impiegarlo in un ruolo di centrocampo. E quindi continuo a pensare che il Milan debba essere la favorita su Tevez, però è chiaro che se poi invece il Paris Saint-Germain continua con le sue figurine e decide di prenderlo, è nettamente avvantaggiata per gli ovvi motivi. Per l'Inter anche lì io continuo a credere che sarebbe molto più utile un centrocampista all'Inter, ma per carità va tutto bene, insomma Tevez non si butta mai via. Intanto bella parata di Benassi a Lecce su un sinistro secco di Matri, sempre lui giocatore del quale secondo me la Juventus non può fare a meno. Carlo De Rossi, davvero la nuova Roma commetterà questo autogol di lasciar partire un giocatore come De Rossi a parametro zero? ma intanto è questa un'eredità che lascia la vecchia Roma, perché sì, certo, con tutti i problemi che aveva la vecchia Roma, però arrivare a ridursi con questa situazione a questo punto è stato un grave problema. Quindi io auguro, dal punto di vista proprio sportivo, che in qualche maniera, anche se questo costerà dei soldi, costerà delle rinunce importanti anche sotto il profilo proprio delle strategie, perché quando si stabiliscono dei tetti e dei parametri poi buttarli all'aria è difficile, però ecco, effettivamente io mi auguro che possa restare lì. Certo, se resta significa che veramente ha contato qualcosa il fattore emotivo, il fattore affettivo, perché insomma, oggi come oggi De Rossi è il nostro miglior giocatore italiano. Grazie Carlo, ti lasciamo grazie al finale delle partite, un abbraccio, grazie Carlo Pallavicino. Io torno da Giovanni Capuano per la cronaca, mentre siamo al 90° e manca il recupero alla conclusione di queste partite. Mi sembra, Giovanni, che la Juventus stia provando a mettersi il cuore in pace, pur senza riuscirci, in questo finale non semplice di Lecce. No, la Juventus che è molto stanca, molto molto stanca, malgrado tutto Conte non sta cambiando nessuno. Attenzione, ancora un contropiede adesso della Juventus, con Matri che al limite dell'area di rigore ha provato a tirare, è stato contratto però al momento della conclusione, chiede il calcio d'angolo, non gliel'ha dato il direttore di gara. Dicevo, Juventus molto stanca, Conte la sta spremendo fino all'ultima goccia, mentre prima eravamo in diretta, l'occasionissima del Lecce è stata firmata da Pasquato e Lecce che è andato davvero a un passo. Intanto c'è il raddoppio del Bologna contro il Catania, primo minuto di recupero l'ha segnato Di Vaio, quindi Bologna 2, Catania 0. Dicevo, Pasquato che è andato davvero a un niente dal gol dell'1-1, quindi Juventus che sta chiudendo con grandissima sofferenza, ed è la partita che in questo momento sta sicuramente aperta nel risultato ma anche nell'andamento, perché una Juventus così stanca si sta anche abbastanza allungando ed esponendo a qualche contropiede di troppo. Abbastanza fortunato anche Di Vaio sul rimpallo. Comunque sono Bologna che ha chiuso la partita, l'ha chiusa anche il Milan, lo ricordiamo, 2-0 a Bergamo. Il Cagliari certamente tra i promossi di questa giornata, sta vincendo 3-0 in maniera molto facile con il Genoa, giocando anche molto bene, giocando anche un gran calcio. Stesso risultato per la Fiorentina a Novara. Un ultimo pensiero, Giovanni Capuano, sulla Roma, che mi è piaciuta molto nel primo tempo e come al solito fino al raddoppio di Totti ha lasciato la porta aperta al Chievo nella ripresa. Sì, Roma che nel secondo tempo è stata davvero graziata, prima del gol del 2-0, soprattutto in un'occasione con Moscardelli, ma non solo. Beh, a me la Roma piace in generale quest'anno, quella di Luis Enrique è una squadra che piace tantissimo, gioca sempre, però è evidente che si tratta di una squadra che sta pagando molto la gioventù, intanto del suo tecnico e poi di alcuni dei suoi protagonisti, a partire da Pjanic e Lamela, che oggi, da Boye nella Mela, Lamela oggi non è stato nella sua giornata migliore. Va detto che quella della Roma è la terza vittoria consecutiva, così come è pesante la quinta vittoria consecutiva dell'Inter, per tutte e due però vale il detto che le rimonte si fanno soprattutto se quelli davanti lasciano qualcosa, e da questo punto di vista direi che la notizia di questa domenica, a meno che il Lecce non ci smentisca in questo tempo di recupero, è che Milan, Udinese e Juventus non sono per nulla disposte a lasciare niente. Non mollano niente. Grazie a Giovanni Capuano. Con Giorgio Duca in redazione e Pietro La Corte in regia riprendiamo da qui fino alle 19, anzi dalle 16.30 fino alle 19, perché è ripreso il campionato e sono riprese anche le lunghe domeniche sportive di Radio 24 con A Tempo di Sport e poi con Pallaspicchi dalle 20.30 alle 21. È ora di far sentire la vostra voce, 800 24 00 24, dopo aver visto fin qui 27 gol in questo primo turno del 2012 in Serie A, tassametro che continuerà a correre stasera, perché scommetto con voi che Palermo-Napoli non finirà 0-0. Gol così distribuiti, così vi ufficializzo i finali, nulla è cambiato negli ultimi spiccioli di recupero in precedenza rispetto a quando ci eravamo lasciati. Dunque la notizia è che il Milan e la Juventus tengono il passo in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, che ha giocato una partita, se vogliamo, anche grigia a Lecce sul campo dell'ultima della classe, l'ha vinta con un gol di Matri che era partito in panchina ma ci è rimasto soltanto 22 minuti perché Quagliarella, titolare di oggi, si è fatto male, ha preso un colpo allo zigomo, è uscito, è entrato Matri che 5 minuti dopo al 27° ha segnato il gol partita su una intapin, gol facile ma da attaccante vero, su una respinta di Benussi su un destro di Vucinic, che è stato forse il migliore tra gli juventini. Tiene il passo il Milan, che vince su un campo difficile e proibito per tutti, almeno in questa stagione, come quello di Bergamo. C'era confronto tra Ibrahimovic e Dennis, due marcatori principe del campionato. Lo vince Ibra su rigore, perché così ha sbloccato la partita dopo 21 minuti di gioco, il fallo di Manfredini su Pato, e per inciso, secondo me, era rigore, anche se ci sono state grandi proteste da parte degli atalantini, perché è stato questa spinta da dietro di Manfredini su Pato, appunto, se vogliamo anche un po' ingenua, con la palla che non è stata nemmeno sfiorata. Trasforma Ibra, che oggi non è stato brillante. Si diceva prima, forse meglio di Ibrahimovic tra gli attaccanti del Milan, Pato, che ha colpito una traversa di testa al settimo della ripresa. Dennis è andato vicino al gol al 13°, anche in questo caso palo in mischia, e poi la gara è stata chiusa al 38° da Boateng su assist di Ibrahimovic, forse la cosa migliore della sua partita. Rigore a parte, quindi Milan tra i promossi, Juventus anche, se non altro per il risultato, che conserva questa coppia a braccetto in testa alla classifica. Tra i promossi certamente il Bologna, che ha battuto 2-0 Catania con il gol nella ripresa di Cherubino al 5° e di Vaio al 46°. Grande Cagliari, una grande partita con un Genoa che Marino evidentemente nella sosta non è ancora riuscito ad aggiustare, soprattutto sul fronte difensivo. Anche in questo caso partita che si sblocca su rigore, come la maggior parte delle gare di Serie A di questo pomeriggio. 12° il fallo di Kučka su Kossu e trasforma la Rivei, quindi una ripresa, grande gol di Ibarbo che si fa 50 metri di corsa prima di segnare il gol del 2-0, e l'autorete di Granquist al 27° della ripresa, 3-0 del Cagliari sul Genoa. Stesso risultato della Fiorentina a Novara, una Fiorentina che ha mandato buone impressioni, e quindi la collochiamo nella casellina, se siete d'accordo, se no ditelo, 800240024, delle promosse di questa prima giornata, ma soprattutto promosso Jovetic, che oggi da prima punta ha fatto una doppietta e giocato una grande partita, primo gol su rigore al 19°, il raddoppio al 42° di Montolivo, e poi di nuovo Jovetic con quello che è stato forse il gol più bello del pomeriggio, per il 3-0 al quarto della ripresa. La Roma ritrova i gol di Totti, anche in questo caso doppietta in entrambi i casi su rigore al 33° e al 31° del capitano, che dopo il primo rigore alza la maglietta, scusate il ritardo, era 7 mesi che non segnava. La Juventus appunto vince 1-0 a Lecce con il gol di Matri, che vi ho già diverse volte, più volte raccontato. Classifica dice Milan e Juventus 37 punti e comandano, l'Udinese a 35, Udinese che nell'anticipo dell'ora di pranzo ha battuto 4-1 il Cesena, però dicevo prima non senza soffrire un pochino, perché dopo il gol del vantaggio dopo un minuto con il solito di Natale, dopo aver subito il pareggio, insomma ha un po' sofferto per l'appunto l'Udinese, e se dopo il gol di Eder e se Antonioli non si addormenta su un destro in corsa di Asamoah tutt'altro che irresistibile, come ha detto Arrigoni poi, allenatore del Cesena, non so come poteva finire questa partita. Invece è finita 4-1 perché poi hanno segnato anche Basta e Di Natale nel finale. Dunque tengono il passo tutte tengono il passo di chi insegue, in particolare dell'Inter, che ieri, ed è uno dei temi di questa giornata, con la miglior partita stagionale al netto di un Parma onestamente inguardabile, si presenterà al derby con cinque vittorie in fila, con 7 vittorie nelle ultime 8 partite, con una difesa che non prende gol da 4 turni, e sono tutti segnali, se vogliamo, positivi per l'Inter, che ha di fronte però, non so anche qui se siete d'accordo, se no ditelo, 800240024, la partita del bivio, perché il Milan ha la possibilità di uccidere ogni sogno dell'Inter battendola nel derby, oppure l'Inter può legittimare le sue speranze, secondo me non di scudetto, ma certamente di un terzo posto che è indispensabile, di una zona Champions League che è indispensabile per i progetti e i piani futuri, io credo, dell'Inter di Moratti. Sta per parlare Massimiliano Allegri, poi cominceranno a parlare gli ascoltatori. Gianni da Parma e Luca da Torino sono già in linea, ma sentiamo l'allenatore, uno dei due allenatori capoclasse, Max Allegri con Sky. Buonanotte a tutti voi. La partita è stata una bella partita, soprattutto è stata una partita fisica. Sapevamo che l'Atalanta ci poteva creare delle difficoltà come intensità di gioco sulle ripartenze, e così è stato. I ragazzi sono stati molto bravi, si sono subito adattati alla partita, mancavano parecchi centrocampisti, Boateng ha fatto la mezzala e credo che abbia fatto anche una buona partita, a volte andava in posizione a trequartista, ma era una cosa normale. Però direi una vittoria meritata, abbiamo creato molto, abbiamo concesso poco all'Atalanta, sì, l'abitudine. Però ha fatto bene Manuelson, ha fatto bene fino a che è stato in campo Pato, quindi sono contento della prestazione della squadra, era importante vincere alla ripresa e così è stato. Marco Nosotti. Ibrahimovic Ilaria fa segnare tutti. Ibrahimovic, dicevo, fa segnare tutti, cioè è diventato uomo assist, ha anche promesso nella flash che abbiamo fatto, nell'intervista flash, che farà segnare anche Tevez, se arriva ci saranno assist anche per lui. E Thiago Silva non fa far gol a nessuno. Ecco, questi due momenti possono esaltare in modo particolare l'allenatore? Parlare di Ibrahimovic e di Thiago Silva credo che sia abbastanza facile, quindi anzi, gli errori che ha fatto Thiago a Bologna sono stati una cosa inusuale, perché credo che errori lui ne faccia veramente pochi, e Ibra è inutile nasconderlo, quello che fa la differenza e sposta gli equilibri in attacco di una squadra. Fortunatamente ce l'abbiamo noi. Così Allegri, c'è chi, Luca D'Ariccione, mi dà del pazzo perché ha visto una partita sontuosa di Ibrahimovic, magari mi sbaglio io guardando le partite tutte insieme, ma l'ho visto meglio altre volte, perché l'ho visto commettere due o tre errori non dall'Ibrahimovic migliore, come un paio di palloni persi a centrocampo innescando la ripartenza dell'Atalanta, ma per tocchi leziosi, come un contropiede in cui si è messo in testa di andare in porta con il pallone quando aveva l'assist facile, si era sull'1-0, dunque era il momento di chiudere la partita. Poi certamente la cosa più bella, controllo di petto e assist dalla sinistra per il gol che ha messo in ghiaccio questa gara, il gol di Boateng. Gianni da Parma, buonasera. Buonasera. Dunque, io volevo chiederle se la disamina che sto facendo sul campionato, sulle prime posizioni, può essere condivisibile, cioè Milan solido, vabbè, la più equipaggiata, Juve in ascesa, Inter in ascesa in questo periodo, però in fase calante nella sua storia, diciamo, di questa, come organico, ecco, quindi con giocatori che ormai sono stati abbastanza spremuti. Quindi non vedo l'Inter, ecco, poter riuscire a entrare prepotentemente nel discorso scudetto. Nemmeno io. E poi volevo dirle, sono d'accordo con lei sul fatto che stasera si ipotizza una bella partita, speriamo che ci divertiamo. Vabbè, bella non lo so, io immagino una partita con gol, non immagino uno 0-0 tra Napoli e il Palermo, perché sono due squadre che le danno e le prendono, quindi non immagino una partita con il risultato a occhiali, ma anche perché insomma alla ripresa dei giochi ci sono spesso risultati tondi e anche bizzarri, come è accaduto in questa, come sta accadendo in questa giornata, no? L'Inter io non la vedo assolutamente, non vedo assolutamente possibilità di reinserimento nella lotta a scudetto. Certamente l'obiettivo dell'Inter deve essere quello, se vogliamo, minimalista della conquista di un posto in Champions League, che è ancora abbastanza lontano, è bene dirlo, che insomma farebbe tutta la differenza del mondo anche per quanto riguarda i piani e i programmi futuri. Tutto qui, insomma, è certamente una squadra in ripresa, è certamente una squadra che sta battendo gli ultimi colpi, vedremo quanti ne ha il Milan. Torno a ripetere, ha la possibilità di cancellare in un colpo solo, in una partita, ogni velleità, ogni ambizione, ogni sogno, ogni ottimismo dell'Inter. Vediamo quanto riuscirà ad essere crudele il Milan. Sto rivedendo il fallo che ha portato al rigore, che ha sbloccato la partita di Bergamo, e sono sempre più convinto che sia rigore per il Milan. Evidentemente parlo arabo, perché c'è qualche tifoso, è caso di dirlo, di Pescara, che si lamenta: cos'è Inter Channel, interisti di qua, di là, non sono nemmeno interisti io, ma tant'è, pensatela come volete, pensate quello che volete, ma magari ditemelo. 800 24 00 24, è chiaro che a domanda io rispondo. Se mi chiedete di Inter, rispondo di Inter e parlo con voi di questo argomento, altrimenti preferisco pure. Luca da Torino, buonasera. Buonasera, dottor Genta, illustrissimo e buon anno. Buon anno, sì, anche appunto, a lei. Mi piace parlare dell'Inter perché è una squadra che, ribadisco, in questi anni ha vinto di tutto, e secondo me c'è molto molta invidia, soprattutto dalla seconda parte della città, perché si fanno i conti di acquistare, come sempre in Italia si pensa poi sempre di acquistare solo attaccanti, i bilanci non si sa come quadreranno, non si sa come quadreranno, perché voglio dire, fra due anni siamo alla svolta, diciamo, questo benedetto muro che o piazza o viene frantumato, diciamo, dal bilancio, diciamo, di ogni società. Sì, discorso che però può valere anche da altre parti dell'Europa, perché mi sembra che comunque anche altre grandi, e non solo le nostre, camminino su una crosta sottile e sotto il quale c'è una voragine di debiti. Non so sinceramente, Luca, se sia il momento dell'invidia per il Milan, perché il Milan ritiene di aver bisogno di un'altra superstar come Carlos Tevez, ha perso Cassano almeno per questa stagione. Ha anche ambizioni europee e, torno a ripetere, non è una squadra secondo me attrezzata per vincere la Champions League e forse non sarebbe, anzi io dico non lo sarebbe nemmeno con Carlos Tevez, altro carattere difficile, altro giocatore di grande talento, altro giocatore insomma che può sposarsi benissimo con Ibrahimovic. Poi saranno insomma problemi di Allegri. Intanto mi segnalano dalla regia, in particolare Giorgio De Luca, che De Rossi a bordo campo ha dichiarato, non ho sentito queste parole, ma se poi le peschiamo ve le faccio anche riascoltare dalla voce del vice capitano giallorosso. Ebbene, De Rossi ha detto a bordo campo di conoscere il suo futuro ma di non volerlo ancora rivelare. Secondo me va via De Rossi, e secondo me fa anche bene, perché per la Roma certamente sarebbe un bruttissimo colpo anche dal punto di vista economico oltre che tecnico, però ha il diritto di andare a vedere in un top club quanto vale, insomma. Io trovo che sia giusto che possa concretizzare questa, professionalmente oltre che economicamente, questa grande chance che ha davanti a 28 anni, l'ultimo grande contratto della sua carriera e l'ultima possibilità che ha di dimostrare anche a se stesso quanto sia il suo reale valore, secondo me molto elevato. Sta parlando ancora Allegri tra molti sorrisi. Male, è un campione, quindi ogni allenatore vorrebbe allenarlo come vorrebbe allenare tanti campioni. In questo momento è del Manchester City e quando verrà ci parlerò. In questo momento non ho niente da dirgli, non gli posso spiegare la partita che andremo a giocare, perché tanto lui non c'è, quindi non mi sembra il caso. Beh, avrete capito che il soggetto è Carlos Tevez, e io saluto Enrico Gurrò, inviato di Repubblica, che ha visto oggi il Milan. Ciao Enrico, grazie. Ciao. Allora, il soggetto arriverà, no? Carlos Tevez. Arriverà dove? Non lo sappiamo, eh? Arriverà a Milano probabilmente. Secondo te? Guarda, sono troppi anni che faccio questo mestiere, non preferisco parlare delle cose concrete, perché fare previsioni sul mercato è una cosa, già farlo sul calcio in sé è azzardato, sul mercato è quantomeno imprudente, specialmente in questo caso dove mi sembra che si stia scatenando un derby vero e proprio. Per riassumere, direi che si può dire questo, che Tevez è un giocatore prenotato dal Milan, però il suo atteggiamento, la pubblicizzazione eccessiva di questo affare, le fotografie in cui lui si è mostrato, gli appuntamenti così ostentati hanno irritato moltissimo il Manchester City, il cui padrone sostanzialmente ha fatto un discorso di questo genere: tu sei un giocatore pagato da noi, stai in Argentina da un bel po' di tempo a farti gli affari tuoi, pretendi di andare dove vuoi, quando vuoi, alla cifra che vuoi, e questo è troppo. E questo sicuramente è un ostacolo per il Milan. Io penso che alla fine il Milan sia davvero in vantaggio, perché siamo nel 2011, un calciatore, ma anche uno sportivo in generale, va dove non, o meglio, non va dove non vuole andare. Però è tutt'altro che finita. È tutt'altro che finita. Esattamente così. Poi magari finiamo di parlare e arriva l'annuncio. E arriva l'annuncio prima di martedì, Tevez del Milan. Volevi parlare di cose concrete, lo facciamo subito. Concretissimo il Milan di oggi, su un campo fin qui inviolato in questa stagione molto difficile come quello dell'Atalanta. il Milan va lì e gioca una partita da grande squadra. Ma il Milan gioca a maluccio, diciamo. Sì. Male se intendi per giocare da grande squadra, come del resto lo intendo anch'io essere. Giocare maluccio e vincere 2-0. Credo di sì, credo che il Milan abbia fatto esattamente questo tipo di partita, dimostrando anche di essere un po' imballato, come del resto avevano annunciato in tempi non sospetti, cioè ieri. Sia Allegri aveva fatto capire, sia il preparatore Tognaccini del Milan, che avrebbe incontrato il Milan qualche difficoltà atletica dovuta ai carichi di lavoro di Dubai. Però detto questo, e con questo dubbio che rimane su questo rigore, che io sinceramente non ho rivisto, lo rivedrò tra poco, non sono ancora riuscito a rivedere, l'impressione dal campo era che il rigore ci fosse, poi però anche la mia dalla TV l'ho rivisto un po' di volte perché Pato va in anticipo sul pallone a coprire la palla e Manfredini con un intervento molto scomposto lo travolge, quindi sì, mi è sembrato più che altro un fallo, se è stato fallo, abbastanza sciocco, nel senso che comunque Pato era spalle alla porta, quindi insomma si poteva anche lasciare, però adesso poi incrociando una decina di colleghi ognuno aveva un'opinione diversa, quindi attendo sinceramente di rivederlo di persona. Detto questo, al di là del rigore, il Milan poi ha saputo gestire bene la partita e ho avuto l'impressione che anche con un po' di fortuna, perché c'è stato un palo dell'Atalanta sul 1-0 per il Milan, anche con questo po' di fortuna che poi ci vuole quando si vincono gli scudetti, comunque quando si fanno campionati ad alto livello, devo dire che l'impressione tattica più evidente è che quando Ibrahimovic decide di impadronirsi della partita, lo fa. Oggi secondo me è stata una partita incredibile di Ibrahimovic, anche se apparentemente non sembra, perché ne ha fatte di più appariscenti, però è stata una partita incredibile perché finché era difficile giocare, lui è andato a centrocampo, nella sua metà campo, a prendersi il pallone e a impostare il gioco e così facendo un paio di volte ha letteralmente squarciato da solo la difesa dell'Atalanta, come per esempio nell'azione del rigore che poi ha segnato lui stesso. Nel secondo tempo, quando ha potuto avanzare un pochino e soprattutto quando ha giocato in contropiede, ha fatto di nuovo sia l'assist man sia il tiratore in prima persona. Credo che questo Ibrahimovic, considerato che non è ancora dal punto di vista atletico il migliore Ibrahimovic, può veramente far vincere al Milan lo scudetto, naturalmente Juve permettendo, e può farlo andare molto più avanti dell'anno scorso in Champions, che è poi la cosa che farebbe la differenza vera tra questa stagione del Milan e quella dell'anno scorso. Quindi stai confermando che l'impressione che ho avuto io era stata totalmente errata, perché io, guardando le partite spezzettate, ho visto un Ibrahimovic che ha commesso diversi errori, come quel contropiede che si è mangiato e che poteva chiudere la partita, come un paio di pallone persi. Anche quello, no, hai visto bene, ma anche quello secondo me rientra nell'essere decisivo di Ibrahimovic, cioè Ibrahimovic è in grado di fare e di disfare. Questo non so se sia legato anche al fatto che probabilmente il livello qualitativo del campionato italiano, che se ne dica, forse sia anche un po' abbassato, e quindi Ibrahimovic ha uno strapotere atletico, tecnico e tattico evidente, però proprio quell'errore secondo me fa capire come Ibrahimovic sia in grado veramente di fare e disfare una partita, e questo per il Milan è in questo momento, a prescindere da chi sta a fianco, Pato o Robinho, che è stato molto decisivo quando è entrato, è il valore aggiunto del Milan quest'anno. Grazie Enrico, ti lascio andare a rivedere quel rigore di cui sta parlando Stefano Colantuono con Sky. Il Milan è una grande squadra, c'è un giocatore, anzi ha due giocatori che veramente fanno la differenza in maniera incredibile, mi riferisco a Ibrahimovic e a Thiago Silva. Però ecco, l'Atalanta nel primo tempo se l'era giocata, anzi era stata forse anche più pericolosa del Milan. Poi sai, questo rigore magari spezza un po' gli equilibri e poi diventa difficile, perché ripeto, il Milan è una grande squadra. Ho visto anche che ha cercato anche un cambiamento di sistema di gioco, fare la difesa a tre, alla fine tentare un po' il tutto per tutto, anche perché forse sulle fasce si aspettava qualcosa di più dalla sua squadra. No, abbiamo lavorato, abbiamo creato, ci siamo dati da fare, ripeto, l'avversario oggi era di spessore, non è che giocavamo contro una squadretta, averla affrontata così alla ripresa, ce la siamo giocati alla pari, siamo stati in partita fino al 2-0, abbiamo avuto l'occasione anche per pareggiare con il palo di Dennis, anche se c'è da dire che poi il Milan poteva già fare il 2-0 su un colpo di testa di Pato, quindi la partita secondo me è stata direi equilibrata. Ripeto, l'Atalanta è l'Atalanta, il Milan è il Milan, però io sono contento della prestazione dei miei giocatori perché sono tornati insomma dai 15 giorni di sosta con il piglio giusto. Questo è Colantuono, allenatore dell'Atalanta, c'è Bruno da Milano in linea e poi anche Roberto da Tortona. Bruno, buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. E soprattutto buon anno. Buon anno. E io volevo dire quanta competitività c'è praticamente col Milan, e io parlo da interista, nel senso che adesso affrontiamo questo derby, che veniamo da una situazione un po' difficile, se effettivamente il mercato dipende soprattutto dal derby, cioè se tenere i vari Milito, Forlan, Roma Varia, oppure arrivare effettivamente a questo Giornellino Tevez, che potrebbe essere un indesto. Sarebbe bizzarro se il mercato di un club come l'Inter dipendesse da una partita, sebbene importante come il derby, no, non lo credo. Credo che invece la condizione crescente dell'Inter abbia dato interesse alla partita che vedremo tra una settimana. Torno a ripetere, il Milan ha la possibilità di ammazzare ogni ambizione dell'Inter battendola nel derby, però credo sarà una partita di grande equilibrio, perché l'Inter vista ieri è comunque una squadra in crescita, al di là di un Parma, torno a ripetere, imbarazzante. Però non penso che il mercato dell'uno o dell'altra dipenderà da quanto succederà la prossima settimana. Roberto Tortona, buonasera. Buonasera signor Genta, buon anno. Buon anno. Ascolti, io volevo fare una considerazione un po' polemica. Prego. Sono tifoso dell'Inter. Sono molto soddisfatto dell'inserimento vero presunto dell'Inter nella trattativa tra il Milan e Tevez. Molto soddisfatto perché, se è vero, Tevez per me è un fuoriclasse, è una macchina da gol. E se è presunto, così finalmente Gagliardo pagherà il giocatore per quello che lo deve pagare, visto che lui ha parlato di proposte interessanti. Mi chiedevo se lui li paga con la proposta interessante. Parlato, purtroppo è caduta la linea con Roberto. Proposta fantasiosa, ha detto Galliani. Io non credo che ci sia un inserimento presunto. Abbiamo sentito anche prima Enrico Currò di Repubblica tracciare uno scenario molto più incerto di quanto possa sembrare. Sappiamo che il Milan ha l'accordo con il giocatore e in questi tempi è la cosa che conta in trattative di mercato, però la vicenda è tutt'altro che finita. Insomma, non sono così d'accordo sul fatto che Tevez sia un fuoriclasse assolutissimo, perché è un giocatore di grande talento, un giocatore che però ha inseguito sempre molto la scia del denaro più che delle grandi esperienze professionali, è una testa calda ed è un giocatore insomma che avrebbe, se lo ricordiamo con la maglia del Boca da ragazzino, tutti dicevamo questo è un fuoriclasse, si è rivelato un grande giocatore ma non esattamente quello che si poteva immaginare. Prima di fermarci c'è Conte con Sky, lo sentiamo. Siamo soddisfatti dei tre punti, sicuramente potevamo chiuderla secondo me la partita prima e quindi evitarci tra virgolette inutili sofferenze fino alla fine. Però penso, ecco, che si possa fare sicuramente meglio, ecco, come a livello di prestazione. Ora chiedo se il lavoro svolto a Dubai, perché abbiamo insomma lavorato tanto anche dal punto di vista atletico, abbia inciso in questa fase per poi ovviamente trovare energie dopo su quel calo finale, quando poi lei anche per tenere il risultato insomma ha cambiato modulo, ha fatto giocare la squadra con un 5-4-1. Quel lavoro ha pesato in questo senso nel finale? No, assolutamente, ripeto, i lavori che effettuiamo comunque lo facciamo per cercare di essere così in condizione per una partita, bensì per tutto il campionato. Abbiamo fatto un lavoro normale come ci capita settimanalmente, quindi niente di particolare. Sono soddisfatto comunque della voglia da parte dei ragazzi di ottenere i tre punti, anche, ripeto, in una situazione in cui c'è stato da soffrire, perché poi quando lasci il risultato sempre sull'1-0 c'è sempre il rischio di una beffa, di un calcio da fermo, e oggi io temevo il Lecce particolarmente, perché non dimentichiamo che Lecce, con Muriel, Di Michele e Quadrato, ha tre giocatori che davanti negli spazi possono far male. Invece la difesa ha retto ottimamente. Questo cosa. Antonio Conte, io mi devo fermare, ma sulla Juventus vi do due notizie. La prima, pessima: frattura allo zigomo per Quagliarella e dovrà essere operato, quindi l'ennesima sfiga per questo giocatore che stava ritrovando spazio e fiducia. E poi il benvenuto dei tifosi, benvenuto per modo di dire, dei tifosi juventini che a Lecce espongono uno striscione con scritto Boriello mercenario senza orgoglio e dignità. C'è ancora Conte che parla. Sì, quindi le idee sono ben chiare, non è che ho tutti questi attaccanti, ne ho 5, adesso si è fatto male Quagliarella e siamo tornati a 4 un'altra volta. Certo. Ecco, ma che succede? C'è il mercato... Volevo chiedere ad Antonio, visto che il mercato è cominciato ufficialmente, quindi magari qualche domanda si può finalmente posso farla. No, se Pizarro della Roma ha come caratteristiche è il centrocampista che nel mercato di gennaio Antonio Conte ha chiesto alla Juventus, cioè un vice Pirlo, un giocatore che quindi può sostituire Pirlo all'occorrenza, o cerchi più invece una mezzala, un giocatore che possa anche inserirsi, quindi più un'alternativa a Marchisio? Perché ricordiamo che oggi, per esempio, Pazienza è finito addirittura in tribuna. Ma sai, Gianluca, parlare di mercato in televisione non è mai semplice, soprattutto non è mai produttivo, perché rischi di far lievitare prezzi, costi di giocatori che in questo momento magari non stanno uscendo neanche sui giornali. Pizarro comunque si tratta di un ottimo giocatore, però io parlo quotidianamente con la società, abbiamo la stessa linea di idee, la stessa linea di condotta, però parlare in televisione di mercato sarebbe controproducente. Ne dovrete parlare, perché ovviamente c'è Gianluca Di Marzio e tutti gli altri molto furba, che molto furba la risposta di Antonio Conte. Io ho l'impressione che, non so se ha voluto bruciare Pizarro, però ho l'impressione che potrebbe essere il giocatore che fa il caso della Juventus, anche perché Pirlo, che è così determinante, e nelle ultime partite l'abbiamo visto anche oggi, ha giocato un po' claudicante, ha bisogno ogni tanto di tirare fisicamente il fiato. Segnalano 5 attaccanti: Matri, Del Piero, Quagliarella, Vucinic, Toni, Amaury, Boriello, fanno 7, togliamo Quagliarella che, ripeto, si è fratturato uno zigomo, poveretto, e dovrà essere operato strafuori ancora un po'. Toni, Amaury, mettiamoci anche Iaquinta, quindi torna a 7. È evidente che, insomma, Conte ha fatto l'elenco di quelli di cui si fida, di quelli che considera nelle sue rotazioni, cosa che non sono né Toni né Amaury né parzialmente anche Alessandro Del Piero. Marco da Napoli, poi Duilio da Aosta, prossimi due ascoltatori in linea. 800 24 00 24, lo sta dicendo ancora Antonio Conte con Sky? Cosa sta dicendo? Che sta vivendo il paese proprio in generale, sappiamo benissimo che non abbiamo grandi margini di spesa, perché Borriello è arrivato in prestito non gratuito, non so di quanto è stato pagato, però non c'è nessun diritto di riscatto oneroso da parte nostra, quindi se Borriello farà bene, noi ce lo auguriamo, eserciteremo il riscatto, altrimenti perché i tempi sono cambiati, purtroppo soldi a disposizione non ce ne stanno, quindi dobbiamo fare necessità virtù, sapendo tenendo conto che io ho a disposizione un gruppo di ragazzi che stanno facendo delle cose straordinarie e che da parte mia avranno sempre grandissimo rispetto, perché chi sceglierò da mandare in campo lo farò esclusivamente perché lo vedo in settimana e perché voglio vincere, lo dico sempre, non perché mi sta simpatico o antipatico qualcun altro. Così Conte. Marco da Napoli, buonasera. Sì, buonasera dottor Genta, buon anno a tutti innanzitutto. Buon anno. Io volevo semplicemente insomma, sono abbastanza rapido, allora volevo parlare soltanto della riserva dell'Inter in campionato e dire, a differenza di quel tifoso precedente che ha detto a proposito di Tevez, di un inserimento dell'Inter o meno, vabbè, allora io credo che all'Inter non serva un attaccante, o almeno se Milito continua così, credo che la nota stonata sia Zarate, ecco, non è che sì, abbia convinto. molto molto fino a questo momento. Infatti quindi verrà con ogni probabilità rispedito al mittente. No, ma all'Inter serve un piano, un progetto. Non so se in questo progetto, le cui linee rimangono comunque misteriose, perché non sono convinto che Ranieri sarà allenatore di lungo corso all'Inter, è una squadra che va rifondata e ristrutturata. Tevez è un giocatore molto costoso, molto, molto pesante come ingaggio, come personalità, e quindi non so se possa essere funzionale a questo. L'Inter non ha bisogno di mettere delle pezze, secondo me, in questo mercato, ha bisogno di rifondare una squadra, ma a medio termine, dica. Sì, quindi credo che, allora, dato che comunque ha fatto comunque una discreta rimonta, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, anche in maniera inaspettata, soprattutto da parte mia, allora credo che con qualche buon innesto, non dico tanto in difesa, perché bene o male comunque sta reggendo, ma quantomeno a centrocampo, almeno per cercare di limare il gap che almeno io credo che sia allo stato attuale insomma abbastanza enorme o comunque importante dal Milan, che comunque ha molte alternative soprattutto di qualità. Quindi credo che qualche almeno un paio di innesti al centrocampo, o almeno per quanto possa consentire il mercato di gennaio, ma credo che per quanto riguarda l'attacco, almeno al per questo scorcio di campionato, credo che stia a posto così, almeno quello che ritengo io. Sì. Beh, può essere che non abbia torto, secondo me. Anche secondo me l'Inter ha bisogno di qualcosa a centrocampo. Però torno a ripetere, si tratta di rifare una squadra, quindi si tratta di fare innesti strutturali e non contingenti, a mio parere. Non so quali idee abbiano, né quanti soldi abbiano da spendere in questo momento. Duilio d'Aosta vuole rispondere? A collega. D'Aosta, innanzitutto le fa gli auguri a lei, signor Genta, per un buon anno. Auguri, reciproco. Le fa i complimenti per la sua altissima professionalità. Grazie. E poi, non so, o sono io che vivo nel mio mondo o sono gli interisti che vivono nel mondo dei puffi, perché io li sento dire di tantissime vittorie, ma tutte queste tantissime vittorie sono poi condensate nell'arco di un anno, mi corregga se sbaglio. Cioè, insomma, qualche scudetto l'hanno vinto, eh. Vabbè, ma il Milan ha iniziato a vincere nell'89 con Sacchi. Sì. Due Coppe dei Campioni, due Coppe dei Campioni con Ancelotti, una Coppa dei Campioni con Cappello. Sì. Ho perso il numero del conto degli scudetti che ha vinto con Cappello. No, ma si tratta di capire qual è l'arco temporale che prende in considerazione. Lei, da bravo tifoso, dice: io lo considero dall'88 a oggi. Loro invece hanno vinto tutti in un anno quello del triplete. In realtà comunque hanno costruito, almeno in Italia, una dinastia che è durata per qualche stagione. Poi lasciamo stare ogni discorso collaterale, però questo è il senso. Certamente in questo momento, questo è il momento del Milan in questo derby dei titoli, no? O dei titoli, per dire alla Mourinho. Sì, appunto. Poi l'ultimo titolo l'abbiamo proprio strappato a loro in Supercoppa. Cioè, non una squadra che proprio non invidio, nonostante quell'anno bellissimo del triplete, complimenti, ma una squadra che proprio non invidio è l'Inter. Sì, da milanista. Ma d'altra parte non vedo perché dovrebbe, in tutta onestà. Appunto, ma anche se prendessero te, continuo a non invidiarla. Ma non sarebbe un buon motivo per invidiarle, ma io le do ragione da tifoso quale lei, e quale io fatico un pochino ad essere. Duilio, la ringrazio, molto simpatico. Voglio farle sentire Jovetic, che invece è uno dei grandi protagonisti di questa giornata. Secondo me è una cosa positiva, se abbiamo segnato tre gol potevamo fare ancora di più. Siamo contenti e non dobbiamo accontentarci per niente, perché ci aspetta la partita con la Roma e poi la prossima con la Lecce in casa. Peraltro, ci spieghi questa esultanza sul tuo secondo gol? Hai mimato la PlayStation? Perché ci giochi, ti prendi tu alla PlayStation? No, non prendo me, però gioco sempre, gioco calcio con Nastasic, e poi abbiamo fatto un scherzo tipo 7 giorni fa e per quello abbiamo esultato così insieme. La domanda agli Aic è, si questo gioca bene. Era Jovetic e noi abbiamo il traffico in linea, poi facciamo un salto a Roma, perché io vorrei saperne di più su De Rossi, che oggi a bordo campo ha dichiarato: so già come andrà a finire la vicenda che mi riguarda, ma ancora non ve lo dico. Proviamoci noi. 800 24 00 24 per intervenire, per parlare con noi, per parlare di questa giornata di campionato, per dire quello che vi pare. 800 24 00 24. Guglielmo Timpano da Roma, ciao Guglielmo. Buonasera Carlo, buon anno a tutti. Dacci un po' di notizie su De Rossi. Sta giocando giocato al gatto col topo oggi con i colleghi della stampa, lo stavamo aspettando in zona mista, in realtà da personalmente sto facendo la spola tra la zona mista e la sala conferenze dove sta per parlare il mister della Roma Luis Enrique. Allora, la situazione ad oggi, sperando di non essere smentiti chiaramente professionalmente da quelle che saranno i risvolti delle prossime ore, è: Daniele De Rossi non andrà via dalla Roma, non andrà certamente via a parametro zero, ma non andrà via neanche a gennaio. Sapete che il Manchester City sta cercando di lusingare in questi modi il calciatore, chiaramente il valore d'acquisto e il valore di mercato di Daniele De Rossi vincolato a parametro zero è un valore di mercato di un certo tipo, parlo come possibile ingaggio del calciatore, mentre l'ingaggio di De Rossi svincolato sì dalla Roma, ma previo il pagamento di un corrispettivo alla Roma, sarebbe assolutamente differente. Questo certo. Perché? Perché i 9 milioni di euro di cui si parla sono 9 milioni di euro che stanzierebbe il Manchester City se De Rossi andasse via a parametro zero a giugno. Se dovesse invece prenderlo adesso, i soldi per il calciatore sarebbero un po' meno, non sarebbero 9 milioni di euro. A quel punto il calciatore sta ragionando con il suo procuratore sull'ipotesi di fare una scelta di cuore, ma anche evidentemente di portafogli, perché la Roma è pronta ad arrivare a 6 milioni di euro. Se la differenza, il gap, deve essere di 1,5 milioni, 2 milioni, crediamo di poter dire senza tema di smentita che De Rossi, magari lasciandosi e riservandosi la possibilità di avere una buona uscita, di avere un contratto con la clausola rescissoria magari sui 25-30 milioni di euro, quindi sotto il proprio valore di mercato, De Rossi sarebbe lì per firmare. Il tentennamento lo interpretiamo, mentre sta entrando proprio adesso Luis Enrique in conferenza stampa, gli faranno la domanda ma dubitiamo sulla risposta in tal senso di Luis Enrique. L'unico tentennamento potrebbe essere nel non rivelare il tutto ai giornalisti, che evidentemente Daniele De Rossi ancora deve mettere nero sul bianco questo accordo che sembrerebbe già ratificato. Ma quindi tu pensi sia una questione solo economica? La questione economica o è anche la scelta, una scelta professionale, no, ma lascia stare la vita, ma una scelta professionale, perché potrebbe dire vado a giocarmi gli ultimi anni di carriera in un club che può essere il City, che può essere Real Madrid, lo United, in un club che mi possa permettere di vincere, di competere quantomeno per la Champions League, di insomma di misurarmi lontano dalla mia città ad altissimo livello. La scelta economica, la scelta professionale e la scelta di vita si legano in un connubio. Non voglio farti 0-0, Carlo, in questa risposta. Ti dico semplicemente che la Roma sta costruendo un progetto. De Rossi aveva un'idea di quello che poteva essere il progetto della Roma a settembre. Ad oggi l'idea di De Rossi, in positivo chiaramente, è cambiata, si sta evolvendo, così come il progetto della Roma sembrerebbe arrivare a un compimento, comunque si sta evolvendo giorno dopo giorno, giornata dopo giornata. La Roma in questo momento dà a De Rossi delle garanzie di ringiovanimento e di costruzione di una squadra, grazie anche a una società che è certamente più forte rispetto a quella degli anni passati, e De Rossi sta tenendo in considerazione questo, sta tenendo in considerazione che qui a Roma lui è, come è stato Totti e come è tuttora Totti, l'ottavo re di Roma, e in questo caso la scelta professionale di rimanere in un progetto vincente, la scelta di vita di rimanere e di rimanere da re nella sua Roma vanno a unirsi anche alla scelta economica, visto che non va a perderci tantissimo. Tutto dovrebbe portare a un rinnovo contrattuale con, a mio avviso, sento di voler dire, questa clausola rescissoria tra i 25 e i 30 milioni che in parte accontenterebbe il giocatore, perché è sotto il valore di mercato di De Rossi, che se firma un quinquennale da domani varrebbe 45 milioni di euro circa. Certo, grazie Guglielmo, grazie. Grazie a Guglielmo Timpano, se poi ci sono novità ci risentiamo, ma ne dubito, perché non scopriremo oggi con certezza il futuro di De Rossi. No, Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao Mirko. Penso proprio di no, ciao, ciao a tutti voi, penso dura. Proprio di no. No, io dicevo, secondo me se va via dalla Roma fa bene, ma a costo di attirarmi le ire dei tifosi giallorossi, non lo dico contro la non lo dico contro la Roma, però sarebbe una scelta professionale interessante vedere comunque un giocatore di livello assoluto, di valore assoluto come De Rossi giocare in un club pronto subito per la vittoria in Champions League. Insomma, secondo me De Rossi è oggi il centrocampista più forte del mondo, perché è il più completo, sì. Perché è il giocatore più completo al massimo della maturità, perché è proprio l'età migliore in questo momento dove può esprimere il meglio, e francamente non vederlo giocare sui palcoscenici più importanti non è bello, insomma. No, ma anche proprio sportivamente, quante volte abbiamo detto ci sarebbe piaciuto vedere Totti negli anni in cui era ovviamente al top nel Real Madrid, Madrid piuttosto che insomma, il grande club, mettilo da solo. Però quante volte l'abbiamo detto di Francesco Totti? Sono d'accordo con te, sono proprio d'accordo con te. Ascolta, promosse e bocciate di questo turno. Promossa certamente l'Inter, dicevamo, la migliore stagionale al netto di un Parma orrendo. Ecco, orrendo. Promossa di un Parma orrendo. Esatto. Promosso il Milan, no? Eh beh, sì, il Milan è andato a prendersi 3 punti su un campo difficilissimo quest'anno contro una delle squadre comunque più difficili da affrontare anche a livello di ritmo e oltretutto in una giornata in cui gli mancavano parecchi uomini. Questi sono segnali pesanti. Io credo che questi 3 punti del Milan siano un chiaro segnale in previsione Scudetto, un chiaro segnale alla stessa Juve che ha vinto a Lecce ma con una vittoria che ha un peso specifico probabilmente molto diverso rispetto a quello del Milan. Juventus promosso o bocciata? Juventus promossa perché anche in una giornata non proprio felicissima dal punto di vista anche atletico, ma anche del gioco, anche dell'approccio, ha portato a casa 3 punti. 3 punti importanti, comunque è andata a prendersi la vittoria e lo ha fatto rischiando non tantissimo, pochissimo, appunto ripeto, in una giornata dove non ha brillato. E anche questi sono segnali importanti in quello che io penso che sia il vero obiettivo della Juve, cioè arrivare in Champions League senza passare dai preliminari, quindi secondo posto. Io continuo a pensare che il Milan sia davvero un gradino sopra tutti. Lo penso anch'io. Mirko, dicevo prima anche che tra una settimana l'Inter ha la possibilità di cancellare quanto l'Inter ha fatto nelle ultime 8 partite. In un colpo solo, perché se la batte nel derby, secondo me la rimonta dell'Inter è già finita. Sì, sono d'accordo con te. Il problema che ho potuto riscontrare anche ieri, perché ho assistito proprio alla partita dell'Inter, è il ritmo bassissimo che ha il centrocampo dell'Inter. E il vero problema dell'Inter è lì. E infatti, secondo me, la cosa incredibile è che l'Inter, che ha ben chiari i propri problemi da ottobre, cioè in mezzo al campo, sia arrivata a metà gennaio che ancora pare forse insegue Tevez invece di inseguire 2 centrocampisti di sostanza e giovani. E l'unico vero problema dell'Inter è lì. L'Inter non ha problemi né in avanti né dietro, i veri problemi ce li ha in mezzo al campo rispetto a quelle alle squadre che la precedono. L'Inter ha un ritmo troppo basso in mezzo al campo, è un'età troppo elevata e quindi io credo che sia questo il vero problema dell'Inter. Certo, poi il derby è il derby, è una gara sola, se tu la vai a vincere ti porti a 8 dal Milan, come dici tu, la vera rimonta l'hai già completata, insomma hai già fatto tantissimo. Sì, sarà importante anche vedere come che Napoli ritroveremo in questo anno nuovo, perché l'altro competitor per quelle posizioni, cioè la Lazio, si è sciolta in maniera, in maniera clamorosa, non mi viene un altro aggettivo, ma potrei usare anche quelli che ho adoperato prima per il Parma ieri a Siena. No. Ma li hanno usati loro stessi, lo stesso Reia ha parlato di vergogna, ha chiesto scusa ai tifosi, cioè la partita è stata imbarazzante per una squadra che è lì che lotta per un posto in Champions League, è stata una gara veramente imbarazzante. Che idea ti sei fatto per chiudere sulla Roma di oggi? Perché io ho visto una grande Roma nel primo tempo e poi una Roma che come al solito rischia tutto se non chiude la partita e non la chiude quasi mai. Sì, è una Roma che ancora è nel pieno della costruzione, con quindi tutti i problemi che ne conseguono, è una squadra che quando gioca a calcio, quando ha la palla tra i piedi è veramente spettacolare, è una bella squadra, è fresca, ha grande tecnica, però ancora non ha probabilmente misure ed equilibri giusti e quindi rischia sempre da un momento all'altro di rovinare tutto quello che costruisce. È una squadra che ancora per quest'anno viaggerà insomma a ritmo alternato, secondo me. Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a te, ciao. Grazie, ciao. Un abbraccio Mirko Graziano, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Chiudo questa ora insieme, poi ne avremo un'altra per chiacchierare. 800 24 00 24, sulla base di una classifica, prima ve l'ho letta parzialmente, prima di Luca da Seregno lo faccio per intero. Milan e Juventus 37, Udinese 35, dunque rispondono tutte, presente le prime 3 della classe. Lazio 30, assente, ingiustificate, lo stavamo dicendo ora. Inter 29, Roma 27, Napoli 24, Catania 22, Fiorentina, Palermo, Cagliari, Genoa 21, Atalanta, Chievo 20, Parma 19, Siena e Bologna 18, Novara, Cesena 12, Lecce 9. Mi sembra che il solco sia particolarmente preoccupante ormai per le ultime 3 della classe, Novara, Cesena e Lecce. Novara e Cesena staccati ormai 6 punti rispetto a Siena e Bologna che precedono. Luca da Seregno, buonasera. Pronto, buonasera gente, tanti auguri. Sera, grazie, buon anno. Auguri. Due domande semplici riguardanti il mercato dell'Inter. Allora, secondo lei l'interessamento per Tevez risponde a una reale necessità della squadra che per me non c'è, o è fatto più che altro per disturbare le operazioni del Milan e obbligare Galliani a comprare un giocatore per quello che effettivamente vale? Guardi, domanda numero uno. No, però poi bisogna vedere se per fare un dispetto al Milan con un giocatore che lei dice io sono abbastanza d'accordo all'Inter non serve, si spendono tutti quei soldi. Se per fare un dispetto al Milan l'Inter va a comprare un giocatore che non serve, beh, allora mi arrendo. Poi, certo. Domanda numero due era conseguenziale. Ammesso che esista questo tesoretto da investire, sul quale io dubito, non sarebbe meglio andare a comprare due giocatori che a centrocampo cambiano faccia la squadra? A me viene in mente De Rossi. E a prescindere da tutto, allora, che cosa è servito vendere To? La saluto, la ringrazio. Saluto e ringrazio lei, Luca. È quanto stavamo dicendo poco fa con Mirko Graziano, quindi rischieremmo di essere ripetitivi. È lì che l'Inter ha la necessità di intervenire, cioè su un centrocampo bollito, diciamolo, ma per limiti, per questioni fisiologiche e anagrafiche, non certo in un attacco che comunque può reggere fino alla fine della stagione in attesa di quello che verrà. Per il resto, insomma, ripeto, continuo a non parlarne, continuo a avere le idee molto molto chiare, sempre più chiare, e continuo a lavorare come sto facendo, perché mi sto togliendo delle grandissime soddisfazioni. Che significa avere le idee chiare? Significa essere consapevoli di quello che si dice e di quello che non si dice, soprattutto perché in una città così dire una virgola in più scatenerebbe quello che non voglio scatenare, anche perché c'è un'attenzione mediatica che a me non dico spaventa, perché sono sereno, ma un po' fa impressione, perché io sono uno che se non sta sulle prime pagine dei giornali e sulle prime pagine di Sky Sport 200 con i tuoi servizi di 10 minuti campa benissimo lo stesso. A me basta che la ruoi. Va bene, noi facciamo il nostro lavoro e tu lo fai benissimo in campo. Grazie a Daniele. Io ringrazio Filippo Aureggi che è arrivato in regia al volo, ci ha fatto sentire ai microfoni di Sky Daniele De Rossi, così non riportiamo citazioni tra virgolette ma sentiamo voci vive come quella del vice capitano giallorosso al centro di questo grande caso di mercato che avete sentito. Spaventa un po' anche lui, ma giustamente, vista la pressione e l'attenzione mediatica che c'è da parte di tutti, ma in una città come Roma in particolare, che può stritolare anche un giocatore che alle palle d'acciaio come De Rossi. 800 24 00 24, e riprendiamo i nostri discorsi soprattutto con gli ascoltatori, perché è il vostro programma, è il vostro momento e c'è anche un vostro numero per i messaggi che conoscete, 349 238 6666. Alessandro da Modena, buonasera. Salve, buonasera, auguri e complimenti per la trasmissione e per la conferenza. Grazie, dica. Salve, volevo dire all'amico Duilio del Milan, sì, che critica un po' la formazione dell'Azzurra. Sì. Ricordiamo al signor Duilio che negli anni dal 2000 al 2010 la Coppa dei Campioni, la Champions League che hanno ottenuto i calci di rigore e in semifinale sono passati. Alessandro, guardi, la sento veramente molto male, magari proviamo a ripristinare il collegamento perché così non si può. Botta e risposta a distanza tra tifosi. Alessandro che vuole rispondere a Duilio, mi piace anche così, se volete 800 24 00 24, anche se sono fondi di diatribe un po' sterili. L'Inter comunque è una squadra che ha tracciato una piccola epoca del nostro piccolo grande, poi qui lo decideranno gli interisti e i milanisti del nostro calcio, con tanti scudetti, con quell'anno incredibile del triplete, eccetera eccetera. Mettere sulla bilancia è più forti noi e più forti voi mi sembra un po' stucchevole, ma in fondo divertente. Luca da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, dunque, io volevo sapere la sua opinione a proposito di questa cosa. Io credo tutti parlano della necessità di valorizzare i giovani, di far crescere i vivai italiani, però credo che per cominciare questo meccanismo forse bisognerebbe cercare tutti, anche i media, ed essere un po' meno esterofili, perché trovo che l'acquisto di giovani stranieri venga sempre salutato come l'acquisto di un giovane, di un campione o di una promessa assoluta, mentre i giovani italiani, c'è sempre una certa perplessità a vendere i giovani italiani come dei potenziali campioni. Il risultato è che ad esempio sono pronto a scommettere che se l'Inter dovesse, l'acquisto di Lucas da parte dell'Inter potrebbe essere salutato come un grandissimo acquisto. Se l'Inter facesse ritornare destro a giocare nell'Inter, probabilmente ci sarebbe da parte di tutti, media compresi, un po' di perplessità di fondo, e mentre nei fatti, se Lucas alla stagione avesse un rendimento come quello che sta avendo adesso destro nel Siena, probabilmente sarebbe salutato come un fenomeno. Sì, io credo che forse per valorizzare un po' i giovani bisogna anche cercare, soprattutto gli italiani, credo che Destro sia l'unico giovane dell'Under 21 italiana che gioca titolare in Serie A. Sì. Forse bisognerebbe tutti magari avere un po' più di fiducia. Luca, questo in parte è vero, in gran parte vero, così come è vero che il discorso è molto profondo, che dalle nostre parti, a differenza di quanto accade all'estero, non abbiamo molto coraggio, i nostri allenatori per la stragrande maggioranza non hanno molto coraggio, non hanno il coraggio di rischiare di bruciarsi, di scottarsi le dita facendo giocare i giovani, in particolare i giovani italiani, si preferisce il nome esotico, eccetera. Poi io ho una mia visione personale e ampiamente criticabile, me ne rendo conto, per cui non riesco più a distinguere tra italiani, stranieri, eccetera. Io valuto i giocatori, ci sono giocatori forti e giocatori che non lo sono. Ad esempio l'Udinese, con la sua politica, è una squadra che mi piace da impazzire, e in tutta onestà mi importa poco se la squadra la costruisce con una operazione di scouting molto professionale, molto precisa, molto dettagliata. Io vedo comunque una squadra che gioca un gran calcio, che ha idee anche societarie, anche politiche, di politica societaria molto chiara e molto precisa, e quindi non riesco più a fare tutta questa distinzione a seconda del passaporto. Valuto i giocatori e le squadre, e il progetto di De Udinese a me piace da morire, per esempio. Poi, detto questo, lei ha in parte ragione, perché è molto più facile vendere del fumo che arriva dall'estero piuttosto che del probabile arrosto delle nostre parti. Questo è certamente vero, ma è un macro discorso, questo. Giorgio da Cagliari, buonasera. Sì, salve, buonasera. La prestazione del Cagliari di oggi è stata fantastica, secondo me favolosa. Fantastica. Finalmente sì. Abbiamo ritrovato un calciatore che sa portare avanti un contropiede, spero che mantenga una certa anche costanza. Ma sinceramente a me questo Ibarbo emoziona forse più di quanto mi emozionava un altro fulmine come Suazo. Mi pare insomma che Ballardini, nonostante tigre ed avvicendamenti degli allenatori, stia riuscendo a recuperare un po' di quel carattere che già si era visto nel 2008-2009. Sì. Vorrei sapere se, vista la sua esperienza, grande Cagliari, un grande Cagliari quello di oggi. Poi vediamolo, valutiamolo da qui un po' per vedere se quale può essere stato il lavoro di Ballardini in profondità. Oggi ho visto. Forse Cagliari è la squadra che più mi ha impressionato in questa ripresa. Dall'altra parte c'è un Genoa che come il Parma ha giocato una partita da coprirsi gli occhi, come il Parma ieri, insomma, nettamente tra i bocciati. Genoa che tra l'altro mi sembra che ne abbia presi 9 nelle ultime due partite, ha cambiato allenatore, è una squadra fragilissima in questo momento, però ho visto un grande Cagliari. Ecco, a proposito del discorso che si faceva prima, ma importa poco se Ibarbo arriva da lontano, io vedo un giocatore eccitante, emozionante, ha ragione il nostro amico, e quindi sono contento di poterlo vedere tutte le domeniche. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera, io sono un tifoso milanista e vuoi rispondere all'intervista. Sono molto contento del risultato di oggi, perché contro la squadra di Colantuono mancherebbe altro, cioè nessuno aveva vinto a Bergamo quest'anno, l'Atalanta vale 26 punti in classifica anche se ce ne sono scritti 20. Infatti, quindi uno meno della Roma ne meriterebbe 26, e secondo ne ha me fatti 26 potrebbe, ne ha fatti sì, 26 dico, ne ha fatti, e secondo me la giustizia potrebbe ridargli quei punti che ha che le ha tolto all'inizio. Ma insomma questo non saprei, perché insomma c'è stato una parte di una vicenda che adesso si è riaperta, quindi questo non saprei dirle. Secondo me va bene così, in linea di massima va bene così, perché perché in casi come questo credo che la responsabilità oggettiva, che pure è un concetto giuridico criticabile finché volete, però debba valere, dunque non starei ad aprire questo fronte, rimango sul fronte precedente, e cioè il Milan oggi ha fatto un grande risultato vincendo a Bergamo, giocando maluccio e portando a casa 3 punti laddove fino adesso non c'era riuscito nessuno, contro un Atalanta che ha giocato anche una buona partita, è stata scalognata per la sua parte, è stata una partita, e ha ragione con Antuono, estremamente fisica, quindi estremamente difficile, soprattutto in un momento in cui si rientra da una lunga sosta, dunque certamente grande risultato quello dei rossoneri. Dunque Adolfo, come annunciato da Napoli, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io essendo tifoso del Napoli, automaticamente leggo la teoria di De Laurentiis, che va bene, sì, ti ingaggio, quindi probabilmente il 90% non vinceremo quasi mai niente, perché giocatori di alto livello non vengono a Napoli. Questo pessimismo da dove mi esce? Mi sembra, Adolfo, mi però sembra che... è sempre lo stesso. No, mi sembra che il discorso sia, l'inizio del discorso sia vagamente pessimistico, sia eccessivamente pessimistico, anche perché il Napoli mi sembra che abbia preso uno dei giocatori più interessanti che c'erano in giro in questo momento nel calcio mondiale. Poi lo vediamo, qui per il discorso che facevamo prima, però mi sembra un po' troppo pessimista, Adolfo. Dica. Non dice più niente, Adolfo. Spero che non si sia offeso, però lo penso davvero. Quindi è chiaro che il Napoli va sulle sue tracce, ma sta lavorando benissimo, perché conosciamo anche il duello di mercato che c'è stato di recente, che il Napoli ha vinto. Dunque non condivido questo pessimismo. Certamente Vargas, che mi segnalano sarà in tribuna questa sera a Palermo, ma presto vedremo in campo, e che ha eccellenti credenziali ovviamente in attesa di conferma, era uno dei prospetti più interessanti che il mercato internazionale offriva in questo momento. Certo, se mi dite che la classifica del Napoli è deficitaria, io condivido e sottoscrivo, perché per il solito discorso per cui il Napoli ha pagato tantissimo e meravigliosamente comunque la strada fatta in Champions League. Io saluto e ringrazio Max Pisu. Ciao Max. Ciao Carlo, ciao. Dove sei? A casa. E a teatro quando ci vai? Quando vai a lavorare? Allora, teatro sabato sera. Adesso ormai siamo presi con le prove di Zelig, comincia Zelig la stagione nuova, quindi siamo un po' impegnati lì. Poi col teatro invece sono sabato sera a Guidizzolo, provincia di Mantova, anzi se qualcuno in zona aspetto volentieri. Sabato sera hai detto? Sabato sera, sì. Vedo se riesco a fare un salto. Bravo. Ma per Zelig fa niente? Per Zelig che idea hai? Per Zelig, io ho fatto Zelig off, dove ho portato appunto le cose che sto facendo in teatro adesso, dove non faccio il personaggio, insomma, non ho sostituito Tarcisio con un personaggio, ma faccio me stesso sul palco, quindi sono una serie di monologhi, si chiama Amnesia lo spettacolo, e quindi ho portato queste cose in TV e sembra che funzionino, quindi sono contento. Senti, ti do un'idea, Quagliarella vestito alla Totò quando faceva l'oiettatore. Sì, mamma mia, veramente, da 6 gennaio dell'anno scorso, quest'anno si è ripetuto, spero che non sia, adesso non so quanto tempo dovrà stare fuori. Frattura allo zigomo, operato, starà fuori un po', più sfiga di così si muore. Un po', e dopo rientra come Zorro con la maschera, come fanno tutti. Senti Max, da Juventino invece, quanto è bello vincere sul campo dell'ultimo in classifica, soffrendo un sacco e rimanendo primo in classifica? La catalogo alla rubrico sotto le emozioni dimenticate. Sì, è vero, è un po' di tempo che non succedeva, però la strada in campionato si va anche così, anche vincendo in questo modo, e poi si sa, l'ha detto anche Conte, che l'inizio del campionato è sempre un po' strano, no? Quando c'è la ripresa, poi arrivavamo comunque da 3 pareggi esterni, perché comunque con Napoli, Roma e l'altra, che non mi ricordo più, questa era da vincere, e anche vincere così va bene, insomma. Sì, contento tu per l'arrivo di Boriello, che oggi è stato salutato non benissimo? Ho visto qualche striscione, ma a livello di così tecnico sicuramente un'alternativa a Matri ci sta, nel senso che va bene, poi vista la sfiga degli attaccanti che entrano e si fanno male, quindi avere un uomo in più va bene. Ma sicuramente non è stato un comportamento, cioè per un tifoso non è bello insomma sentirsi rifiutato e poi arrivare e prendere un po' di soldini, però vabbè, i tempi sono questi qua, sono cambiati i tempi ogni giorno di prima, quindi ci sta, ecco. Qual è il giocatore che ti ha più sorpreso in questa prima parte di stagione? Positivamente Marchisio, che rispetto all'anno scorso me l'hanno detto tutti, quindi sì. che è un giocatore diverso da quello che l'anno scorso, quindi è totalmente cambiato. E poi dei nuovi sicuramente Vidal, che si è inserito benissimo in squadra, Pepe si è rinforzato e soprattutto dietro Barzagli mi sta piacendo molto ed è diciamo l'uomo più in forma e più affidabile della difesa. Bonucci che lancia di troppo, che non capisco, però non lo so questa roba qua è strana, perché vedendo Conte che si incassa quando uno fa dopo due o tre lanci che fai, che sbagli, basta, no? Allora invece lui prosegue e persevera, e persevera probabilmente, però Conte è contento che così, non so, magari ci prova, sì, non so. Bisognerebbe chiederlo a lui. Poi prima ha dato una risposta meravigliosa sul mercato, fare il mercato ha detto fare il mercato in televisione è una cosa pericolosa, perché poi magari voi adesso dite tutti un giocatore, noi stiamo trattando un altro, se mi scappa una parola lievita il prezzo e noi di soldi non ne abbiamo, arrivano solo in prestito e gli paghiamo il rimborso spese e qualche buono benzina, così grosso modo queste cose. Certo che la Juventus con Borriello anche esteticamente fa un bel salto, saranno contente tutte le signore, Le signore sono un bel attacco, dai, Matri e Borriello si è messi bene, mamma mia da quel punto di vista lì, sì, belli in campo e belle anche la tribuna, infatti, basta inquadrare Sonia Del Piero, almeno ce ne saranno delle altre. Esatto, c'è anche la moglie di Buffon, però anche non è male. Max, ti ringrazio, l'abbraccio. Grazie a voi, l'abbraccio, a ciao, presto ciao, con ciao, Max ciao. Pisu, vedremo se lo vedremo a Zelig con grande simpatia, peraltro, come sempre. Visto che siamo in argomento striscioni, un argomento che non mi piace tantissimo, però questo ve lo leggo, visto oggi sulle tribune di Bergamo, siamo e restiamo per il calcio sano, doni con noi, ha chiuso lo striscione dei tifosi dell'Atalanta oggi a Bergamo. Mario D'Arezzo, buonasera. Ehi, Mario. Mario D'Arezzo, campo scoperto, speriamo di riuscire a fare meglio, magari tra poco. Luis Enrique invece con Sky, credo che qui il campo funzioni. Facendo, che cerchiamo di fare, ho visto che la squadra ha iniziato la sua partita con l'atteggiamento abituale e credo che oggi ante un avversario difficilissimo abbiamo fatto una partita completa. No, per me lo che è un peccato è che un calciatore come Osvaldo o qualsiasi calciatore si infortuni, ma dopo quando parliamo di essere una squadra, di avere una rosa ampia, di avere una rosa che ha quella qualità che noi allenatori vogliamo, e per situazioni come questa, superare una situazione di un infortunio di un calciatore che è un riferimento per noi, ma facendolo con la stessa voglia, con lo stesso modo, cerchiando di fare la nostra proposta come al solito oggi abbiamo fatto. Bueno, siamo credo nella strada giusta, ancora manca tantissimo, dobbiamo fare tantissimo lavoro e fare oggi. Sono molto contento e soddisfatto perché ho visto pure il tifo che è venuto in un numero maggiore e credo che la sintonia fra il tifo, fra i tifosi, fra i calciatori è l'ottimo. Questo era Luis Enrique ai microfoni di Sky, soddisfatto oggi. Certamente rimane la preoccupazione per l'assenza di Osvaldo, che come sapete durerà un paio di mesi e spesso capita in questi momenti, via Borriello, scaricato come un arnese inutile, ecco che si fa male Osvaldo. Ed ecco che se prima Conte faceva la conta dei suoi attaccanti, faceva l'elenco dei suoi attaccanti, e comunque non è poca roba, 5 nonostante l'infortunio di Quagliarella, allora Luis Enrique, il conto di Luis Enrique è molto più magro. La Roma ha bisogno di un attaccante? Credo di sì. Chi può essere questo attaccante? Sinceramente non lo so. A me questo modulo con un po' d'antanna con Totti che fa la boa in mezzo a, in mezzo a, a Bojan, a Pjanic, a, a questi che si inseriscono. A meraviglia, a me piace questa, questa formula emergenziale finché volete, però a me piace perché, perché è un gran bel vedere, insomma, come è stato oggi per mezz'ora abbondante per tutto il primo tempo. Vedo anche Delio Rossi, prima di Marco da Firenze. Delio Rossi. Ho lavorato bene durante questo periodo di sosta, però la fotografia è sempre la partita. Abbiamo cambiato anche il sistema di gioco, abbiamo messo dentro dei ragazzi e sono contento soprattutto per loro, perché tu proponi delle cose, ma se non hai il riscontro del campo poi metti in discussione l'unica cosa che conta, che è il lavoro. Io penso che questa squadra abbia delle qualità. Oggi abbiamo fatto bene, era una partita delicata, però secondo me ci abbiamo ancora molti margini di miglioramento. Stiamo lavorando senza promettere niente a nessuno per portare la Fiorentina nel posto che merita, magari dietro quelle quattro squadre che sono più forti della Fiorentina. Così Delio Rossi. Io stavo leggendo la classifica marcatori e sinceramente i 9 gol di Jovetic, compresi i 2 di oggi, sono qualcosa di sorprendente, se vogliamo, di spettacolare certamente, come lo è stato il gol, il secondo gol segnato da questo giocatore a Novara, e credo davvero che si sia davanti a un giocatore che animerà la prossima edizione del mercato classifica marcatori, che adesso ne vede 3 in testa, con Dennis che non ha segnato, ha solo colpito un palo, che non porta punti in questa speciale graduatoria. Dennis raggiunto da Di Natale, doppiette da Ibrahimovic, gol su rigore, a quota 12, con 9 c'è Cavani che gioca stasera, Jovetic e Klose, 7 Calaiò, Giovinco, Matri e Osvaldo. Matri che ha timbrato il cartellino a Lecce. A proposito, continuo a pensare che, l'ho detto prima e lo ripeto, non so se siete d'accordo, se no ditemelo come sempre, 800 24 00 24, che la Juventus non possa fare a meno, con il suo stile di gioco, di una prima punta vera, sia essa Matri o Boriello. La formazione proposta oggi da Conti, iniziale con Quagliarella prima punta, secondo me non è adatta a questo tipo di gioco, di questo stile di gioco. Marco da Firenze. Buonasera dottor Genta. Buonasera. Una sola considerazione, anzi due, una velocissima. Sono tifoso dell'Inter, spero che Moratti non si faccia prendere un po' dall'euforia della partita di ieri sera, e che comunque faccia qualcosa almeno a centrocampo come intervento sul mercato. E senta, poi vuole che le giri una twitterata? Tanto è molto, sì, di moda, sì. Gliela giro subito, l'ha scritta Gianluca Di Marzio, collega molto informato di Sky che conoscete tutti. Ha scritto su Twitter: il City rifiuta l'offerta del Milan e accetta quella dell'Inter. Se Tevez dice sì, è Inter. Spero di no, però va bene lo stesso. E poi un po' di sana fuffa in questa maniera, per rispondere al mio amico Duilio, sì, tifoso milanista, sì, in questa maniera. Lui ha ragione, pienamente d'accordo, perché le vittorie sono sempre vittorie e sicuramente il Milan ne ha avute e ne ha ottenute più dell'Inter. Sì. Però guardi, le voglio dire una cosa, preferisco aver vinto una Champions League con squadre del calibro del Chelsea, del Barcellona, aver vinto con il Barcellona, averlo buttato fuori, che magari vincere una Coppa Campioni con la Steaua, anche perché pensiamo che in quegli anni non è che ci fosse una grande crema e delle grosse squadre come ci possono essere anche adesso. Il calcio inglese non c'era, il Real Madrid e il Barcellona erano veramente in crisi, anche economica. Loro facevano un grande calcio, per carità di Dio, io sono onesto, a me mi è piaciuto il calcio di Sacchi, però se andiamo a analizzare, hanno vinto in un contesto dove veramente non c'erano tante squadre e soprattutto non c'erano soldi e grandi giocatori che ci sono adesso, perché il Milan di allora era da considerare il Barcellona di adesso. Sì. Però non c'erano né Manchester, non c'erano né Chelsea, non c'era Manchester City, non c'era Real Madrid. Marco, però era un'altra epoca, insomma. Io sono abbastanza contrario ai discorsi epocali, così come ai paragoni tra giocatori di epoche diverse, tra squadre di epoche diverse, quindi certamente la Champions League di adesso è figlia di questi tempi, come sono figlie di questi tempi poi la Champions League che il Milan ha vinto in anni più recenti rispetto a quelle dell'89 e del 90, quindi diciamo che il Milan ha cominciato molti anni fa e ne ha vinte e ha vinto in epoche differenti, in epoche molto differenti, quindi sa, giusto il suo discorso, se paragona l'ultima la Champions dell'Inter con le prime del Milan, però il Milan poi ne ha vinta anche qualcun'altra, mi pare. Non sono d'accordo con le spigolature di qualche ascoltatore, come ad esempio Max che scrive: dovreste per correttezza ricordare che quella incontrata dal Milan viene dopo il caso Doni, quindi l'Atalanta incontrata dal Milan viene dopo il caso Doni, quindi non serena, c'è poco da enfatizzare. Sembra che l'avvio di stagione dell'Atalanta sia stato interamente all'insegna di questa vicenda. Non credo che l'Atalanta oggi, dopo quanto è successo circa un mese fa, fosse meno serena rispetto al solito. L'Atalanta si è costruita con le sue mani una classifica meravigliosa, è una squadra estremamente seria. Vincere a Bergamo è stata una piccola impresa per un Milan non bellissimo, non brillantissimo come quello di oggi, ma credo che il caso Doni nella vittoria del Milan c'entri davvero nulla, almeno questa è la mia opinione personale. Mario da Arezzo, buonasera. Buonasera a lei, grazie della compagnia. Grazie a lei. Questo viaggio ci dà un paio d'ore di tranquillità. Ascolti, sì. La Fiorentina, mi pare che Anna glielo ho chiesto, Gilardino, no? Sì. E Montolivo. Secondo me dovrebbe partire Montolivo e trovare veramente un centrocampista. Io non dico Antonio De Sisti perché si trova Rari o Al Piero, però un centrocampista, perché anche Montolivo, secondo me, a me sembra poi, non è un centrocampista, non lo so, perde alcune parti o non ha più voglia anche lui. Beh, ma certamente in questo caso, caro Mario, sì che c'entra un po' la serenità smarrita, no? Valeva il discorso per Gilardino, che era stato messo al centro del mercato in uscita da Fiorentina in estate, ha pagato questa situazione, perché quando vale, discorso che vale a mio parere anche per Sneijder, quando un giocatore è così vicino al trasferimento, quando un giocatore sente che il suo club ha intenzione di cederlo, ma fino all'estremo punto quasi di rottura, qualcosa si spezza. Infatti non a caso Gilardino, arrivato a Genova, dice: riprendo a respirare. Poi oggi è rimasto sott'acqua in una squadra che deve totalmente ritrovarsi, quindi nulla ha fatto oggi Alberto Gilardino. E credo che lo stesso discorso valga anche per Montolivo. Montolivo è un caso ormai molto lungo, paragonabile a quello di De Rossi, quindi penso che questo abbia influito sul rendimento di Montolivo, che peraltro è stato accettabile per buona parte della stagione. Oggi ha segnato il suo primo gol stagionale. Prima abbiamo sentito, non so se eravate già collegati, il suo procuratore, e cioè Carlo Pallavicino, che ha fatto un discorso da fiorentino e anche un po' da tifoso. Spero proprio che Montolivo possa restare, però mi sembra segnato il destino sportivo di questo giocatore. Tutti dicono finirà al Milan. Ecco, è uno di quei giocatori che secondo me all'Inter, a questa Inter, avrebbe fatto molto bene. Oggi ha segnato un gol molto bello, tra l'altro curiosamente lo sto rivedendo, gol molto bello in pallonetto, su cui c'è una complicità evidente da parte del portiere del Novara, che ha fatto ciò che un portiere dovrebbe sempre evitare di fare, e cioè andare a metà strada nel territorio dell'incertezza. Montolivo l'ha visto fuori dai pali e lo ha uccellato con questo pallonetto. 800 24 00 24 è il numero verde. Alla Juve servirebbe un Benzema, secondo un ascoltatore. Io ho appena preso Boriello, vabbè che si è fatto male Quagliarella, che Conte prima ha fatto l'elenco di un attacco che secondo lui sarebbe ridotto ai minimi termini, ma adesso ha anche detto Conte che insomma la Juventus non ha poi tutti questi quattrini da spendere sul mercato, tanto che è arrivato Boriello, ha precisato Conte, ma in prestito non so per quanti soldi, quindi noi da spendere ne abbiamo pochini. Saluto e ringrazio il mio amico Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid per la Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio, oggi a Barcellona, appena arrivato, fresco fresco. Sì, cosa è successo? Per il derby, no, per il derby stasera. Cosa succede? Bah, vincerà, l'anno scorso ha vinto 5-1 il Barça, quest'anno magari 4-1, dai. 4-1. No, non lo so, però insomma teoricamente non c'è partita, insomma, però poi si dice sempre il derby, vediamo un po' cosa ci riserva. Ma cosa vuoi che ti riservi, Filippo? Una grandinata di gol a favore del Barcellona? No, ma è una cosa, guarda, ti dico la verità, il campionato spagnolo è la cosa più noiosa del mondo, onestamente. Adesso oggi ho messo un numero, secondo me, che non è male. Nell'alveo stagionale il Barcellona ha fatto 99 gol, sì. Il Madrid ne ha fatti 94, sì. Terzo in classifica l'Atletico Madrid con 45, sì. e poi ci sono Messi e Fabregas con 44. No, ma è una lega. E con questo, no? È una lega di questo tipo. Poi a Mourinho basta alzare un sopracciglio, cosa che ha fatto, ed ecco che ne arrivano 5 sul povero Granada. Sì. No, l'unica cosa però ti dico questo, queste vacanze sono state a Londra, tra le altre cose mi sono anche andato a vedere Chelsea Aston Villa e comunque ho visto parecchio calcio, l'unico calcio che c'era è il calcio inglese, che io ho seguito, come sai, no, per tanti anni, certo. E, beh, comunque voglio dire, ho trovato un livello tecnico pessimo. Allora mi sono detto, com'è che prima non te ne accorgevi? Probabilmente perché adesso sono abituato alla Liga, dove appunto anche l'umile Granada, comunque la squadra che se ti deve mettere 5 passaggi in fila te li mette con grande sapienza. E questo è un dato che secondo me va rispettata per questo, perché sì. Si gioca bene a calcio e le squadre, appunto anche le più piccole, provano a giocare e giocano bene. E io ho visto delle difficoltà nel campionato inglese proprio sui fondamentali che non ricordavo, anche perché poi sono un grandissimo estimatore, ci sono cresciuto il calcio inglese, c'è una tale passione che un po', no, copre tutto il resto. Però parlando proprio di calcio, la Liga resta comunque, secondo me, un bel campionato a livello tecnico. Quello che io non riesco a sopportare è il calare le braghe quando vai a giocare con le grandi, cose che fanno puntualmente tutti, no? Ma sì, ma anche perché ieri questo Granada ha giocato bene, ha fatto un bellissimo primo tempo. Cioè, appunto, fa piacere. Però poi dopo difficilmente trovano l'antidoto per fermarle queste squadre, continuano a giocare allo stesso modo quando magari dovrebbero capire che bisogna variare il tipo di gioco, perché non è che poi appunto puoi gloriarti del fatto che sì, metti, no, una serie di passaggi in fila e ti porti dietro 8.000 persone e sono contente solo per il fatto di essere stata al Bernabeu. Però è così, questo, ogni campionato ha i suoi limiti, questo è il limite della Liga. Il gatto arriva a 50 reti col Madrid e supera Zidane, diventando il francese con più reti nella storia. L'hai scritto tu oggi sulla Gazzetta. Sulla Gazzetta. Il gatto è una tua creatura, diciamolo pure, caro in Il gatto è una creatura di Mourinho, no? Le chat, perché non mi azzardo a metterlo in francese, però sarebbe più giusto. la creatura l'ha creato Mourinho, che insomma è un grande creatore di tante cose. Però Benzema veramente forse una delle sue migliori partite ieri in questi tribolati anni madrileni, e veramente, tra l'altro, messo schierato largo a destra inizialmente con questo 4-3-3 ideato da Mourinho ieri, e benissimo, insomma, il fatto che comunque abbia segnato più di Zidane, insomma, ha il suo merito. È chiaro che di questi tempi i gol arrivano a carrettate, quindi sì. È più facile battere qualsiasi tipo di record, però insomma non è che Zidane giocasse in una squadra di pipponi, mettiamola così. No, tutt'altro. Poi vincevano poco, questo è un altro discorso. La Liga era più viva e poteva vincere anche il Valencia. Sì, altri tempi, però, altri tempi, esatto, mio caro. Altri tempi. Però no, Benzema è il gattone è in formissimo, è veramente in questo momento è forse il più in forma del Madrid. Ma peraltro un giocatore che a me piace da morire. Il talento indiscutibile, che poi dopo qui a un certo punto fosse gordo quasi come Ronaldo. Sì. Avesse sto sederone così, e poi voglia zero, quello è un altro discorso. Però il talento. Ti dico, io ho una predilezione per quelli un po' indolenti. Io ho una, predilezione per questi giocatori di grande talento e alla fine un po' pigroni, è un difetto mio, è una deformazione no, mia. No, non, ma, che... vabbè, non è un difetto, è un piacere, insomma, è giusto così, insomma, e adesso però c'è un sacco di voglia, appunto, il gattone si muove, poi è elegante, sì, forte, tecnicamente è bravissimo, insomma. Fa piacere comunque, via. Meglio avercelo in forma che no, perché comunque è un giocatore che insomma fa piacere vedere, al di là poi di quelle che possono essere le passioni personali, diciamo, di ognuno. Sì. L'altra faccia della medaglia è il portoghese triste, che niente, è tremendo. Hai visto ieri che faccia che ha fatto dopo il quinto gol, quando ha fatto il gol? Vabbè, d'altra parte lui piangeva, così. Piangeva quasi. Si diverte poco. No? Si diverte molto poco, perché c'è il nano che gli fa mandare via il sorriso, lo patisce troppo, non c'è niente da fare. Senti Filippo, per chiudere, poi ti lascio ad andare a vedere gli 80 gol che segnerà oggi il Barcellona. Kakà, dunque Mourinho ha detto no, resta, perché serve per entrare al 22esimo della ripresa contro il Granada. Sei in pagella, voto tuo. Povero Kakà, è uno dei quattro casi che io ho evidenziato, mi sembra venerdì su sabato, insieme a Coentrao, Arbeloa e Carvaglio. Gente pagata più o meno cara, gente più o meno rispettata, con carriere dignitose, che in questo Real Mourinho fatica. Ci sono dei problemi, parliamo di Kakà, che è quello che ci interessa di più. Il rapporto non è buono con Mourinho, Kakà a un certo punto si è sentito tradito da Mourinho, perché le cose andavano bene con Kakà in campo, ti ricordi, ne abbiamo parlato? Sì, certo. Ha fatto 5-6 partite di seguito da titolare, il Madrid giocava molto bene e poi improvvisamente è sparito, un piccolo infortunio, non si capisce bene, e da allora niente, è venuto giù la tapparella appunto, entra, si gioca a spiccioli di partita, e quindi di nuovo tornato il Kakà che non incide. Ieri poveretto, non è che gli dai meno di 6, però insomma, si vedeva che non gli interessava niente di quella partita. Vabbè, come fa a interessargli? Esatto. Del resto il ragazzo deve anche capire che guadagna 9 milioni di euro l'anno, è costato 64 milioni, o il suo, diciamo, le sue prestazioni tornano a quelle ad essere quelle di una volta, oppure è complicato farsi vendere. Lui ti dice: sì, ma se non gioco come faccio? Siamo nel guado, insomma, ogni tanto magari ha giocato, poteva far vedere di più, non lo so, insomma, tra altre cose bisogna considerare che Ozil ha avuto una prima parte di stagione pessima, quindi cioè Kakà ha avuto il suo spazio, però lo spazio magari se l'è preso più di Maria, non lo so, situazione complicata. Diciamo che è un tramonto precoce e triste. È un tramonto precoce e triste quello di Riccardino, che io spero sinceramente riesca a trovare il modo per andare via da Real Madrid, anche se è stato incatenato dal sovrano Mourinho. Filippo, grazie, buon divertimento. Grazie a voi, un abbraccio, buon divertimento con la partita serale, il derby di Barcellona, anche se ho l'impressione che di divertimento ce ne sarà pochino. Chiaro che oggi sul fronte del calcio internazionale non abbiamo ancora dato notizia, ma lo facciamo naturalmente. C'è stato anche il derby di Manchester, con il City che ha perso in casa con il Manchester United, è stato escluso dalla FA Cup 3-2, risultato finale 3-0 per lo United, con doppietta dell'uomo più chiacchierato del momento, cioè Wayne Rooney, con il City che ha giocato gran parte della partita in inferiorità numerica per una precoce espulsione di Kompany, e poi è riuscito comunque a combattere nella ripresa, segnando due gol alla fine, buoni solo per le statistiche, perché è lo United a proseguire la sua marcia in FA Cup. Dunque, parziale rivincita, parziale vendetta della sconfitta più bruciante della storia recente dello United, cioè il derby di campionato, che vi ricorderete anche voi. Alfredo da Roma, buonasera. Alfredo? E oggi i telefoni sono una roba veramente che mi viene voglia di piantare qui tutto. Proviamo a Napoli. Antonio, buonasera. Salve Carlo, salve. Oh, finalmente qualcuno si sente bene al telefono. Io, Carlo. Eccomi, Antonio, sono qui. Mamma mia, veramente oggi i telefoni sono... No, ma io la sento, Parli pure, a posto. Io volevo parlare a proposito dell'acquisto di Varga. Sì. Volevo riallacciarmi a quello che lei ha detto prima all'altro radioascoltatore. Sì. Che lui era pessimista, se mi consente lo sono pure io. Perché? Il fatto che il Napoli sia riuscito ad aggiudicarsi Varda non è detto che sia una cosa positiva, secondo il mio parere. Perché? Io penso che l'abbia acquistato in procinto di vendere la Vecchi. Mi spiego. Sì. Vargas sarebbe il clono di la Vecchi. Solo che la Vecchi ormai sta da 3-4 anni con Napoli ed è rodato. Mentre Vargas dovrebbe essere un inizio. Sì. Quindi se rimanesse la Vecchi, e allora io e l'altro radioascoltatore ci siamo sbagliati. Antonio, però mi perdoni, anche se dovesse essere così, magari incassando, trovando un giocatore, non lo so se Vargas vale la Vecchi, perché sono discorsi quasi inutili in questo momento, non l'abbiamo ancora visto e non abbiamo gli elementi per dire quanto valga Vargas rispetto alla Vecchi. È un giocatore certamente a caratteristiche simili. La Vecchi è vicino al top della sua carriera, è certamente, può essere certamente un nuovo mercato. Se Vargas valesse la Vecchi sarebbe comunque stata una grande operazione, perché comunque ti trovi un giocatore che ha quelle caratteristiche, che ha un grande prospetto, l'hai preso a gennaio, quindi con la possibilità di testarlo per metà della stagione, e magari vendi la Vecchi, monetizzi e ti fai dare un sacco di dobloni e magari rinforzi ulteriormente la squadra. Quindi, o no Antonio, mi sbaglio? Se il vecchio volpone di Laurentiis con la vendita di la Vecchi acquistasse un fuoriclasse, e allora io mi trovo pienamente d'accordo con lei. Il problema è che, come diceva sempre l'altro ascoltatore, un fuoriclasse a Napoli già testato è difficile che viene, no, perché De Laurentiis i diritti d'immagine li vuole tutti per lui. Due, perché i tetti massimi degli stipendi annui dei calciatori non superano i 2.200 Sì, e lei si figuri che con questa politica che io trovo di questi tempi assolutamente condivisibile, lei si figuri che con questo tipo di politica il Napoli si è regalato un autunno di Champions League da raccontare. Voi napoletani, voi tifosi del Napoli, vi siete guadagnati un autunno di Champions League da raccontare per molti anni ai vostri nipotini. Dunque, secondo me è anche ora di finirla di dire il fuoriclasse è quello che ti dà la misura di quanto siamo belli, forti e potenti, perché il Napoli con questo tipo di politica perfetta dal mio punto di vista sul piano strategico è andata a prendere un giocatore che tutti volevano, che potrebbe essere forte come la Vecchi, più forte di la Vecchi, più debole di la Vecchi, questo andremo a scoprirlo, però questo Vargas lo volevano un po' tutti e il Napoli è andato a mettere i soldi e se l'è portato a casa. Dunque, se davvero il giro fosse questo, ma stiamo ipotizzando tutti, se davvero questo può essere l'erede di la Vecchi e la Vecchi può essere ceduto per poi prendere magari non il fuoriclasse che guadagna inutilmente 9 milioni l'anno, ma un paio di giocatori funzionali a questo progetto, ecco che il Napoli proseguirebbe con la sua politica, che è quella che lei ha raccontato, salirebbe un altro gradino su questa strada che lo ha portato agli ottavi di Champions in quel tipo di girone, che lo ha portato a giocare un grandissimo campionato scorso, ve lo ricordate tutti, che lo sta fatalmente penalizzando anche per questioni numeriche di organico che magari proprio grazie a questa politica verranno sanate in questa stagione. Dunque non, insomma, io la vedo così, stanno lavorando magnificamente a Napoli e ripeto, prendere adesso questo giocatore con la possibilità di testarlo per ciò che resta della stagione è stata una grandissima mossa. Gianni Milano, buonasera. Sì, salve. Io volevo chiederle che cosa ne pensa a riguardo del futuro di Claudio Ranieri, nel senso che io trovo che sia un buonissimo allenatore e se vogliamo anche un po' sfortunato per quello che in generale un po' gli è capitato in giro per le varie piazze italiane, non solo dove ha lavorato, perché ho sempre avuto l'impressione che fosse un po' l'uomo sbagliato nel momento sbagliato o comunque l'uomo giusto nel momento sbagliato, nel senso che non capitava mai in un momento di tranquillità societaria nelle varie squadre dove ha lavorato. Io volevo chiederle a suo avviso quante possibilità ci possono essere di un Claudio Ranieri ancora sulla panchina dell'Inter tra un anno, nel senso che lui lui lavora bene, però non si parla mai di lui per l'anno prossimo. Sì, ha ragione e io le dico la verità, non so rispondere a questa domanda. Rimane certamente se vince lo scudetto, cosa che ritengo estremamente difficile, forse impossibile. Quindi in realtà non le sto rispondendo, come lei può ben capire. Non so quali possano essere le idee di Moratti. Io credo che Moratti abbia in mente l'identikit di un allenatore per l'Inter che verrà. Credo che questo identikit sia diverso da quello di Claudio Ranieri, che, ripeto, sta facendo esattamente quello che doveva fare con questa squadra spremuta all'estremo. Quindi sta gestendo questa camminata sul viale del tramonto dell'Inter. Resta se vince lo scudetto, quindi è un modo come un altro per non rispondere, perché non lo so. Marcello da Roma, buonasera. Sì, buonasera a tutti voi, grazie per avermi chiamato. Volevo parlare del Palermo e in particolar modo del nuovo acquisto di questo giocatore Vázquez. Io ho avuto la possibilità di averlo visto dal vivo, io sono argentino, sono stato nel mese di settembre appunto nel mio paese, l'ho visto appunto allo stadio diverse volte e voglio invitare a tutti gli ascoltatori ovviamente ad analizzarlo, a vederlo con attenzione. Ovviamente molti fanno dei paragoni un po' stravaganti, devo essere sincero, con altre stelle del calcio internazionale. Tanto non costano nulla i paragoni. Beh sì, assolutamente, diamogli tempo. Sono tutti gratis e quindi si può sparare qualunque minchiata. Sì, no, quindi, assolutamente. Quindi. Io ho chiamato soltanto per ovviamente condividere con tutti voi del fatto che molti parlano di un nuovo Riquelme, di un nuovo Kakà, di un nuovo Zidane. Certo, siamo di fronte a un giocatore di 22 anni che ha fatto tutto il possibile per far retrocedere il River Plate in Serie B in Argentina, quindi sembra che sarebbe molto interessante ovviamente vederlo con molta attenzione questa sera se dovesse giocare titolare contro il Napoli. Poi un'altra cosa, se mi permette una domanda. Prego, ma senta Marcello, no, io invece approfitto di lei, visto che ho ancora un minuto. La Mela invece che idea ha sulla Mela, che io oggi ho visto fare altre due o tre cose, altri due o tre lampi di classe che mi fanno pensare se posso diventare davvero un grande giocatore. Beh, io alla Mela oggi non l'ho visto, ho visto altre partite chiaramente di lui e appunto la Mela si è scontrato con Vázquez nelle due partite ovviamente di spareggio fra il Belgrano di Córdoba e il River Plate, che poi ha provocato la retrocessione di quest'ultima squadra. Beh, la Mela ovviamente ha le stesse caratteristiche tecniche evidentemente di Vázquez, quindi per fare un confronto evidentemente, ma anche del giocatore che abbiamo visto ieri sera dell'Inter, l'ex Belezacil, che ha giocato molto bene, assolutamente, che ha fatto addirittura dei passaggi con le suola delle scarpe. Mi sembra che siano giocatori sullo stesso livello tecnico, per cui magari diciamo speriamo bene per Vázquez. Ovviamente tanto la Mela quanto Vázquez non sono stati ancora convocati nella nazionale maggiore, ma sono molto giovani, soprattutto la Mela, mentre Ricky Alvarez è un giocatore che non è più giovanissimo. Questo mi ha suscitato qualche perplessità quando veniva presentato come il nuovo Kakà o il nuovo quello che volete voi. Ci fermiamo qui, ma poi torniamo come ogni domenica con Palla Spicchi alle 8:30 più tardi. A tempo di sport.